This podcast has been produced with Pod Cleaner. Carissimi amici di Archeologia Videoludica, bentornati ancora una volta nella terza parte di questa sesta puntata della quinta stagione, dove finalmente ce l'abbiamo fatta, parleremo anche di giochi, perché intanto salutiamo colui che è sempre con me in questo accompagnamento, diciamo, insomma, di contorno che facciamo a queste belle puntate che stiamo realizzando, cioè Alex Raccuglia. Ciao. Cioè, pensa, alla fine siamo riusciti a parlare dei giochi. Che poi sì, un computer Gagliardo 64K, un sacco, era rivoluzionario, compratelo perché ci spiate, i vostri figli ci studieranno, roba del genere, però poi... Commodore, insomma... 64, te la ricordi? Sì. Poi dopo mettiamo anche una cosa anche un po' più tamarra. Niente, vabbè, diciamo, finalmente parliamo di giochi, perché insomma, alla fine l'abbiamo usato prevalentemente per questo. E tant'è che in questa... enorme lista che abbiamo fatto, insomma, insieme ai nostri compagni di viaggio Saso, Giuseppe e Santillo Gianluca, non so perché l'ho citati un po' alla libro cuore, così, insomma. E comunque non erano in ordine alfabetico, perché... Tra l'altro, perché San Tilio viene prima di Saso, giusto? Hai ragione. E sai, questo viaggio abbiamo preso praticamente spunto appunto da un link di Ready 64, questo sito italiano che è praticamente, penso, una delle opere enciclopediche, forse a livello mondiale tra le più grandi, non soltanto come raccolta informazioni, ma anche come raccolta software o raccolta di scansioni, o insomma, di tutto e di più. Andateci, cercate, insomma, poi lo troverete nelle note del bisogno che il buon Roberto Bertoni redige, e vedrete, insomma, che ci stanno anche dei giochi che sono stati anche citati. Uno in particolare, quando l'ho visto, ho detto adesso l'ho dedicato a Alex Raccuglia, che è sempre quello il gioco, quindi che non è Dragon Slayer, no? No, lo so. È quell'altro, che poi vabbè, dopo insomma ve lo sentirete. Quindi vabbè, Alex, poi dopo noi ci torniamo, no? Quindi diciamo un attimo i riferimenti veloci, facciamo partire questa bellissima chiacchierata, questo bellissimo percorso veramente tra i 50 giochi più belli secondo Ready 64, anzi secondo gli utenti di Ready 64, della storia del Commodore 64, e poi ritorniamo io, Alex, e diciamo insomma anche le nostre, magari buttiamo Alex, sentiamo anche Alex quale ricordo, quali cose insomma ha da dire. Ricordiamo che Alex è quello che ha scritto la famosa lettera a The Games Machine, la mia prima è stata a Zap. Zap, no, però quella là del credo lì, quella della prima. No, non era su Zap proprio quella? Non lo so, non mi ricordo. Però, no, sono anziano pure io. Sarebbe da ripescarla e schiaffarcela, perché in realtà era quasi appropriata in questo caso. Va bene, allora ascoltiamoci questa ultima parte, poi si parla di giochi, si parla di Commodore 64 e i riferimenti, vabbè, li diamo alla fine perché tanto è inutile, oramai tanto se state sentendo, come dice spesso anche Alex, vuol dire che insomma sapete dove trovarci. Ascoltiamo. Siamo nel vivo di questa terza parte di Archeologia Videoludica dedicata al Commodore 64. Parliamo di videogiochi e presento chi entra ovviamente in questa fase di episodio, quindi Gianluca Santillo. Ciao a tutti, per una puntatona piena di giochi, insomma sarà interessante, perderemo la voce perché i numeri qui dei giochi di cui parlare sono roba grossa. Spaventoso. Sì, assolutamente. E finalmente poi parliamo di giochi, dopo aver parlato di tante cose, insomma. E c'è ovviamente Giuseppe Saso. Buon salve a tutti, è esatto! Esatto. E buon Mad Max a tutti quanti. Se ci è piaciuto. Chi coglie la citazione di Giuseppe Saso è un grande. Io, per esempio, no, per esempio. A parte gli scherzi, però ci stava per 64, forse. Era solo per Amiga. Ci stava, ma non c'aveva la canzone. Ah, peccato. Bene, allora diciamo che parliamo di Commodore 64. Commodore 64 abbiamo affrontato insomma tutta la parte di storia dal VIC 20 al Commodore 64. Abbiamo parlato delle specifiche tecniche dal punto di vista hardware. Adesso parliamo di quello che ovviamente è stato il motivo del grande successo, che al di là di quello che si pubblicizzava illo tempore con il marketing delle grandi industrie che producevano ovviamente computer, dicevano questa è roba per studiare, questa è roba dei vostri figli che ci studiano sopra. In realtà molti di noi ci sono diventati ciechi non per quelle cose che diceva il prete, ma per altre cose. Io racconto una piccola cosa, perché c'avevo una vicina di casa, persona diciamo molto semplice, per carità, con tutto il rispetto, e innanzitutto specifica questa cosa molto semplice, che significa? Molto semplice, per dire che vabbè, figlia di contadini, in questo senso qui, no, io andavo molto bene a scuola, lei molto meno, e questa qua un giorno mi venne a dire vabbè, ma tu vai molto bene perché c'è il computer. No, ci sono rimasto malissimo, perché non sapevo come spiegarle che non c'entrava niente. Vabbè, è un po' come anche quella cosa che a scuola si diceva dei compiti te li fai fare dal computer, te li fai risolvere, no? Beh, anche per ritornare a quello che diciamo spesso anche con Giuseppe Multimanie, no? Leggendo quel famoso libro che è stato pubblicato recentemente sulla storia di Goldrake, leggendo ovviamente la rassegna stampa rispetto all'epoca e tutti gli articoli che ne parlavano, che secondo i giornalisti italiani dell'epoca, negli anni 70 i giapponesi erano bravi per forza, tanto faceva tutto il super computer, no? Esatto. Certo. Che è la cosa più il cervellone. Esatto, il cervellone, ha detto, che è la cosa più bella del mondo, perché poi se tu ci pensi, cioè, avevamo veramente una visione esotica del computer allora, cioè nel senso. Sì. Forse allora, non ricordo ancora puntata... così. Insomma. Vabbè, non ricordo, archeologia informatica fece una puntata del genere su, ne parlarono insomma, non ricordo quale puntata, ma sì, insomma, era forte. Poi ho visto anche una serie televisiva che vi straconsiglio, che si chiama Mad Men, dove c'erano le aziende, cioè è incentrato sul mondo della pubblicità, e praticamente volevano le varie aziende che l'agenzia pubblicitaria avesse un cervellone lì in azienda, perché doveva generare queste campagne mediatiche, quindi insomma si credeva che potesse fare qualsiasi cosa, e invece no, ma questa Giuseppe stavi dicendo pure tu? No, dicevo che in realtà comunque per osmosi, e poi comunque rimanendo in tema del Commodore 64, il Commodore 64 certe cose comunque ce le ha, cioè grazie al Commodore 64, come anche grazie vabbè un po' a tutti i computer dell'epoca, l'inglese l'abbiamo imparato attraverso di loro, a programmare, le basi della programmazione insomma, perché comunque il basic per avviare anche i giochi, load run, pick e pock, queste cose le dovevi imparare, no? Per forza, anche perché poi facevo una riflessione tempo fa, ricordando con un mio amico che ha un negozio di computer che conosco da quasi 20 anni. E lui aveva scritto, c'era una lavagna nel suo negozio dove scriveva tutte le frasi assurde che gli sono capitate durante l'assistenza tecnica. Molte sono ricorrenti, tant'è che alcune sono ricorrenti che sono state pubblicate anche in un libro, tipo che so a che cosa serve il cioè nel senso il portatazze si era rotto, il portatazze era quando usciva fuori il cassettino lo slot del oppure il computer non funziona, perché non funziona, perché l'ho acceso e non fa niente. Vabbè, un po', o anche un po' cose, dice, ma ho un problema per stampare i fogli, dice, e poi dopo un po' gli chiede, scusi, ma le posso chiedere comunque una cosa, ma la carta da dove esce? Perché ovviamente non aveva comprato la stampante, si aspettava che comunque in qualche maniera il computer stampasse di suo. Esatto. No, ma questo è un po' la visione che appunto, come dicevo, forse per certi versi anche ovviamente in maniera paradossale ci siamo riportati anche oggi. Io so che Giuseppe ce l'aveva il 64, però infatti ci arrivo dopo. Però in realtà il 64, premetto, il 64 non è mai stato il mio primo computer, nel senso mio come tuo, certo. Era il 64 di mio padre, che io ho conosciuto, e un giorno ci faremo una puntata speciale magari, perché è un grande personaggio. Perché è bello, perché agli aneddoti abbiamo parlato di programmazione, allora cioè persone che facevano programmazione negli anni 70, penso che non è che ce ne fossero così tante. Le persone che insieme a questo universo ci hanno da raccontare aneddoti che sono veramente storia dell'informatica italiana, un pezzo anche della nostra società. Tu invece, Gianluca, con che hai iniziato? Cioè, non c'avevi il 64? Io ho iniziato con il Commodore 64. Me la sono fatto, dai, come potevi non partecipare? Ma infatti, guarda, io ho dei ricordi nitidissimi, non ricordo niente dei 3-4 anni di età, però mi ricordo che ero, metti, i primi di dicembre del 1984, con mia madre sul divano davanti al presepe, cioè mi ricordo tutti questi dettagli, e le chiesi il computer, fine, il computer, perché chissà dove l'avevo, il computer magari, può darsi, ma uno a caso lo dissi così. Allora mia madre disse, evidentemente valutò questa cosa come qualcosa di utile per farmi crescere meglio, chi lo sa, per farmi fare i compiti, appunto. Certo. E niente, e a Natale mi fece trovare sotto l'albero il Commodore 64. Che bello, guarda, ragazzi. Che bello. Quindi... Magari aveva visto quella famosa pubblicità che girava nelle tre di Mediaset, sì, Rai, quegli anni. Che poi c'era quella famosa pubblicità del Commodore 64 ingannevole, perché pubblicizzavano insieme il Commodore 64 e il VIC-20. Sì. Con International Soccer lo facevano vedere, allora pensavo che andava su tutte e due, no? Invece uguale, no, perché il VIC-20 abbiamo parlato con Gianluca proprio nella puntata dedicata ai giochi di calcio, insomma il VIC-20 ne aveva uno un po' peggiore, poverino, il VIC-20 poverino faceva quello che poteva, però cioè, nel senso, è anche bello, no? il ricordo del fatto di questo oggetto, che è un paradosso, però c'è sempre sta diatriba, no? Chi è stato meglio, chi è stato peggio. In realtà qui non parliamo di questo, noi parliamo del valore che ci ha avuto effettivamente sta macchina, perché macchina ha portato l'informatica nelle case della gente. Poi è vero che abbiamo quasi solo videogiocato, però come diceva Giuseppe prima, cioè comunque non è che tu oggi prendi, accendi la PlayStation e ficchi il disco e poi giochi lì, comunque anche per giocare comunque devi fare delle operazioni, dovevi imparare ad avere un certo tipo di confidenza con la macchina, quindi è proprio un bel ricordo il modo in cui ti interfacciavi con questa cosa che era pionieristica per noi, no? Perché dovevi fortemente volere giocare anche per fare le piccole cose, anche per giocare dovevi fortemente volere, e a volte ti concentravi anche durante il caricamento, perché stavi lì dico caricalo, te prego caricalo, perché dopo 20 minuti di caricamento errore magari, perché non aveva letto, perché l'azimut era spostato, perché il nastro era sporco, per quello che ti pareva, insomma, quante volte è capitato, no? Questo perché ricordiamolo, solitamente avere il Commodore 64 era di fatto sinonimo di avere il Commodore 64 e il lettore a cassette, basta. Solo il lettore costava 64, era un lusso avere il floppy, no, il lettore floppy. Io mi ricordo che quando ci ho avuto il floppy disk e un mio amico venne con il programma che faceva suonare il floppy disk, dove c'era scritto mi raccomando utilizzatelo solo una volta, volta ho veramente sudato, l'ho dovuto fare ma mentre lo facevo ho dovuto sudare veramente tanto, perché immagina che io andavo a dire a mio padre papà si è rotto il floppy disk, e io penso che altro che palle di fuoco, The Pillars of Eternity, insomma, madonna, cose fantastiche. E invece Gianluca invece Giuseppe, tuo padre aveva l'executive, quello da capo, sì, esatto, quello portatile col maniglione nero, gigantesco, quel monitor piccoletto, sì. Era una gran macchina pure quella, insomma. Sì, sì, ma poi comunque non mi ricordo preciso, perché non so se poi mio padre comunque un altro come 64 lo prese, perché questo qua si poteva collegare alla, per caso pure alla televisione, ma cioè può fare essere lo anche schermo, può perché essere comunque anche. mi ricordo poi di aver giocato comunque pure sul televisore grande anche in salotto con mio padre, soprattutto uno dei pochissimi ricordi di io che gioco con lui al computer, perché comunque mio padre non ne sono mai piaciuti i videogiochi, però ho questo ricordo in particolare di uno dei pochi giochi che pure lui piaceva, che era appunto International Soccer della Commodore, dell'amico Spencer col famoso se vi ricordate joystick, quello che hanno tutti con la basetta bianca, il pulsantone rosso e una maniglietta nera piccola che poi grazie al cielo c'avevo gli joystick della Atari, che se non sbaglio erano uguali, andavano, erano compatibili. Sì, perché sì, la porta era la stessa come cose. Bene, allora Giuseppe c'aveva il quello che utilizzavano i giornalisti, no? Quello così, sì. I professionisti, quello che il portatile addirittura, e poi sì. Insomma portatile, sì. Metteremo le note dell'episodio ovviamente le foto portatile per quell'epoca, esatto, però ne abbiamo già parlato, insomma, quindi lo sappiamo, sì. Insomma la portabilità, la portabilità insomma di un computer dell'epoca, ciò nonostante lo rende meno affascinante. E invece Gianluca ha iniziato perché l'ha chiesto alla mamma e la mamma ha detto guarda forse potrebbe essere, ma poi come giustamente Gianluca stesso ha ammesso in un'altra puntata, non so quando, dopo se ne sono pentiti i tuoi, no? A voglia. Lo so, come... i risultati scolastici sono stati devastanti. Io addirittura, cioè mia madre, io mi ricordo, si pentì il primo anno, perché io ero uno che amava uscire, stavo sempre fuori, stavo con gli amici, dal mare d'estate 3 mesi non mi vedevi, non mi sentivi. E c'è stato l'anno del Commodore 64 e tornai a scuola a settembre che ero pallido come la morte. Mia madre era disperata, mi diceva no, ma cioè esci, è malato, perché non esci? E c'erano sempre questi cazzaroli di amici che stavano tutti a casa mia, perché giustamente era praticamente una novità. Però appunto, insomma, al di là di ricordi personali che penso che poi durante questo episodio ci verranno in mente, magari anche soprattutto citando i giochi insomma di cui parleremo, magari comunque in generale tutto quello che sono i 4 punti fondamentali di questa puntata, che sembrano pochi ma poi in realtà vi accorgerete insomma no, cazzo. C'è roba da dire, perché il Commodore 64, il grande successo un po' pari all'Apple 2, ha avuto praticamente un parco software pari a 10.000 programmi, insomma, fondamentalmente, che potevano essere programmi d'utilità in stragran maggioranza, molto probabilmente erano videogiochi. Gianluca, iniziamo da te. Sì, ma sicuramente l'applicazione più comune del Commodore 64 è stata quella. Ora, è stato sicuramente il portale verso tantissimi altri tipi di attività per un sacco di persone, però se vogliamo andare a capire qual è stato il successo, per cui il motivo per cui è stato il computer più venduto della storia, sicuramente sono stati i videogiochi, cioè ci possiamo mettere la mano sul fuoco. Assolutamente sì. La cosa bella del Commodore 64 che ci tengo a sottolineare in questo momento è che 10.000 programmi, ma partoriti dove? Praticamente dappertutto, perché il Commodore 64 è stato il computer veramente con una diffusione forse più omogenea per quanto possibile sia in Italia sia negli Stati Uniti. Per dire, l'Amiga, che comunque da noi sembra ce l'abbiano avuto tutti, in America era quasi un oggetto misterioso, sì. Per dire, no? Invece il Commodore 64 c'era ovunque, addirittura dei videogiochi avevano, sembra assurdo, una conversione per l'Europa e una conversione per gli, sì, Stati Uniti. Perché i mercati erano separati, mille altri motivi, era probabilmente, un altro mondo, però era un altro mondo, erano altri tempi, cioè i mercati non erano aperti come oggi. Esatto. E quindi è bello perché poi ogni nazione ha avuto le sue star, anche noi italiani abbiamo avuto, per dire, no? Anche se un po' più tardi rispetto agli altri, le nostre software house che hanno fatto dei prodotti molto, molto interessanti, poi magari ne parliamo di qualcuno. E quindi li giocavamo, poi era più facile sviluppare chiaramente perché non c'era bisogno di strutture particolari, aziendali intendo dire, quindi un ragazzo poteva tranquillamente mettersi lì e fare il proprio videogioco. Se sentite qualche, sì, mia collega, sì, gatto. Ciao gatto. Il tuo gatto approva. Ciao Mimma. E quindi bellissimo, cioè io consiglio a tutti di surfare, navigare nella libreria del Commodore 64, perché si trova di tutto, cose anche abbastanza sorprendenti, il gatto è scatenato, cose abbastanza sorprendenti. Guarda, allora abbiamo letto 10.000 programmi circa. Tu immagina quanto tempo servirebbe anche guardando 10 programmi al giorno per scoprire, esatto, tutto, esatto, il Commodore 64, sì. non si potrebbe fare, insomma. Io ricordo soltanto, quindi, ecco, per non dire l'unica applicazione non ludica, penso una delle poche applicazioni non ludiche che ho fatto, a parte il Paint Shop Pro, quindi che ci stampavamo i striscioni, queste cose qua, insomma, sì. Oppure, sì, facevamo i volantini, che era divertente, perché in realtà, ecco, quello era una genialata, perché comunque c'era un aspetto ludico anche quello, no? Era la prima volta, sì, che cominciavi, sì, a lavorare con i font, quindi caratteri, cose che per noi era roba benedistica, cioè. E c'era questo fatto che mia zia scrisse, io la aiutai, la sua tesi di laurea sul word processor del Commodore 64, che bisognava comunque saperlo usare, no? Perché comunque c'era il comando per dire che quello era un titolo, il comando per dire che quello era un sottotitolo, il comando per dire che quello era grassetto, e poi quando con la famosa stampante Aki, quella Commodore, e usciva fuori, insomma, dopo 24 ore usciva fuori la tesi di laurea, insomma. E, suggeriamo comunque, poi dopo ne parleremo chiaramente, il sito ready64.it, perché è, penso, l'enciclopedia italiana, insomma, più completa per quanto riguarda il Commodore 64. E secondo me è rilevante anche a livello internazionale, cioè per quanto è curato, per quanto, bella, sì, per quanto amore ci hanno messo. Peccato che, cioè, nel senso, per fortuna per noi in italiano, magari forse di difficile consultazione, magari a livello internazionale, perché ovviamente penso che godiamocelo noi. Insomma, poi non so. Non so, volevi dire altro? Se no, sentiamo. Ma no, Giuseppe, guarda, che... passo la parola. Io, diciamo, come software extra ludico per Commodore 64 in particolare che ho usato e che ricordo, c'è, vabbè, a parte ovviamente, come già detto, il Basic, perché comunque, visto che io ho pure un background da analista programmatore, appunto, mi ricordo che i primi passi li ho mossi prima col Basic e Commodore 64. Poi a scuola usavamo, perché c'erano pure dei Commodore 64 alle medie, il COBOL, che era, diciamo, uno dei, anche dei linguaggi con cui più facilmente tu potevi imparare le basi di programmazione, no? Che era quello con la tartaruga che disegnava tutte le varie insomma, tutte le varie figure a seconda dei comandi che davi e della direzione che gli facevi compiere. E poi mi ricordo un sacco di sessioni anche con gli editor di giochi che erano presenti per Commodore 64, in particolare con il Seuk, che era quello perché gli spara tutto. Sì, della Sensible Software, tra l'altro. Esatto. E poi l'altro, che però mi piaceva meno perché a me comunque i flipper mi sono sempre stati sulle balle, insomma, che era il Pinball Construction Set. E invece, cioè, come programmazione vera e propria, nel Basic ricordavo che, appunto, a differenza di molta altra gente più blasonata di me, insomma, con esperienza che usava veri e propri, l'ha detto pure in episodi delle scorse stagioni di Archeologia Videoludica, gli Adventure Creator, quelli per fare le avventure testuali, io mi ricordo che però qualche avventura testuale molto semplice la scrissi invece in Basic, e non era facile, affatto facile, credetemi. Anch'io l'ho fatto, sì, perché, sì, diciamo, essendo procedurale, comunque dovevi cominciare a fare tutti i vari print, anche con utilizzando magari i caratteri asci, no, del Commodore, se non volevi riempire graficamente con qualche comando, che poi ricordiamo che il Basic del Commodore 64, quello, diciamo, il Basic di base nel firmware della macchina, comunque non era potente perché non aveva comandi veri e propri grafici, dove tutti gli altri erano degli hack che utilizzavi attraverso pick e poc per accedere a registri, a parte che era lentissimo, a registri di sistema, esatto. E poi un'ultima chicca che mi ricordo che la portò una volta un mio amico, che era di suo fratello maggiore, che io non credevo che esistesse per Commodore 64, infatti non mi ricordo con che software l'abbiamo usata, ovviamente uno grafico, però voi sapevate che per Commodore 64 esisteva pure la penna grafica, quella per disegnare sul video? Fu un'esperienza veramente scioccante per la prima volta, anche perché diciamo, io ovviamente ancora non ero arrivato, poi ovviamente scoprì con l'amica che col Deluxe Paint e il mouse si poteva fare anche cose ancora un po' più decenti, perché comunque ovviamente la risoluzione del video anche con la penna ottica e poi pure i tool, no, per disegnare non erano, diciamo, così potenti, ovviamente. Adesso mi hai ricordato Deluxe Paint, mi hai ricordato un'epoca in cui io disegnavo pixel per pixel, era fantastico. Madonna. È vero che i pixel non erano quelli di oggi, però era, certo, proprio, però una pazienza che fa le cose. Comunque, guarda, io stavo vedendo così in generale, e vabbè, poi in generale me lo ricordo, perché allora c'era il discorso del sistema operativo lo conosciamo, sì, insomma, più o meno, il fatto che c'era il basic aveva tantissime limitazioni, sebbene poi comunque ce l'avevamo, o tanti di noi magari ce l'avevano imparati abbastanza bene, perché quando tu facevi l'avventura o lo pseudo gioco di ruolo, comunque dovevi dare il comando al basic per prendere l'oggetto, cioè, c'è la spada, la fai, la prendi, devi memorizzare il fatto che tu l'hai presa la spada, spada, perché in un'altra occasione poi questa spada tu la dovrei utilizzare, o se ce l'avevi succede questo, se non ce l'avevi succede quest'altro. E comunque era tutta una serie di comandi e sottocomandi, e come diceva Giuseppe, se tu dovevi disegnare una cosa a schermo lo facevi con l'asci. In più c'aveva un problema il Commodore 64 rispetto allo Spectrum, che per spostarti o per cambiare colore in realtà tu non facevi direttamente l'operazione, ma davi dei comandi visivi, no? Cioè tu quando spingevi, che ne so, cursore a sinistra, lui non è che si spostava semplicemente a sinistra, faceva un carattere in negativo che era il corrispondente dello spazio a sinistra, oppure il cambio colore era la stessa cosa, un altro carattere in negativo che diceva al Commodore 64, che insomma alla fine quando tu andavi a vedere visivamente lo dovevi sapere, quello che era un po' più complicato rispetto allo Spectrum. E mi ricordo ci fu il Simon Basic, che invece risolse un po' di problemi, perché in realtà era un Basic che andava in alta risoluzione e quindi permetteva di avere dei comandi grafici. Poi la cosa bella è che per esempio a livello di utilità il Commodore 64 c'aveva tutta una serie di suite che erano quelle che oggi noi utilizziamo regolarmente, dal foglio elettronico al word processor al database, c'era veramente tutto. E in più c'era una sorta di pseudo sistema operativo, non so se chi se lo ricorda di voi, che si chiama Magic Desk, che era un'interfaccia grafica fondamentalmente, era un'interfaccia grafica dove praticamente tu c'avevi questa scrivania visualizzata, c'era la macchina da scrivere, cliccavi e apriva il word processor, c'era il cassetto e c'erano gli archivi, c'erano insomma tutta una serie di determinate cose che erano fatte visivamente. E in più c'erano degli emulatori di sistema operativo tipo quelli Macintosh, che ovviamente li dovevi caricare e rallentavano ulteriormente la macchina, però c'erano comunque tutte le suite che c'erano magari nel sistema operativo di Apple, no? Quindi era un po' insomma, su Commodore 64 in linea massima ci abbiamo avuto veramente un po' di tutto. Io vi ho linkato adesso un video che mostra il Geos su Commodore 64. Il Geos, bravo, sì. Un sistema operativo notevole, insomma. Sì, perché, grafico, perché poi, bello. Perché poi su 64 in linea massima, poi alla fine sì, è stato fatto di tutto, no? In linea massima tra sistemi operativi, linguaggi di programmazione, assembler e via dicendo, insomma ce ne sono stati tanti, anche perché se non andavi in programmazione o in linguaggio macchina diventava un po' complicato. Anche questa cosa del Geos su 64 sicuramente lo metteremo poi nelle note dell'episodio, perché un'altra bella chicca, insomma, che ricorda la nostra infanzia. È impressionante. No, forse non ce lo ricorda la nostra infanzia, però è carino vederlo, perché io questo non l'avevo mai visto. Cioè, conosco il sistema. No, io l'ho visto successivamente. Sì, l'ho visto. No, però ricordo la mia infanzia invece i sistemi operativi simili Apple. Che insomma. No, io forse lo scoprì per la prima volta, tipo in quelle riviste italiane proprio dedicate alla Commodore, tipo Commodore Gazette, che ne parlava. Se ricordo bene. Che poi tra l'altro le riviste italiane furono il bello e il brutto del mondo del Commodore 64, il VIC-20 o Spectrum e via dicendo. Allora, però entriamo sempre un po' più nel vivo, e a questo punto domando a Giuseppe. Giuseppe, sto Commodore 64, no? Perché se ha venduto milioni di copie ed era nelle case dei 5 continenti e tutti lo utilizzavano come grande macchina da gioco, lasciando perdere poi i suoi difetti tecnici rispetto allo Spectrum, una roba del genere, ci doveva avere qualcosa. Cioè, che cosa c'aveva in più rispetto alle altre macchine che rendeva sti giochi così belli da doverli giocare su 64, secondo te? Beh, io forse stranamente, nonostante io non sia appunto, non abbia dei background da musicista musicali, quello che mi ha sempre colpito del Commodore, dei giochi del Commodore 64, oltre vabbè insomma un po' la grafica, almeno fin tanto che non passai all'Amiga ovviamente, era comunque il sonoro, perché comunque la musica di certi giochi era indimenticabile, specie poi quando magari scoprivi anche che erano che i brani riarrangiati erano magari diversi, anche ovviamente stiamo parlando nel caso di conversioni da giochi di sala giochi, diverse da quelle di sala giochi, no mi stavo riferendo alla conversione di Ghost and Goblin, che in pratica non aveva la musica originale della sala giochi, però aveva una colonna sonora completamente riarrangiata che si faceva comunque brani musicali di musica classica realizzata da John Follin, che è uno dei tanti artisti che imparò, insomma, che conosciamo per le fantastiche colonne sonore, insomma, realizzate col Sid come 64. Da questi ricordiamo pure che sono anche Chris Hulbeck o Martin Galway, no? Sì. E devo dire che appunto le colonne sonore, quelle musiche, anche quelle bellissime che c'erano subito dopo il caricamento, no? Durante lo splash screen, no, dopo che ha finito di caricare il gioco, ma prima che tu cominciassi effettivamente a giocare, no? Che da sole, insomma, valevano tutta l'esperienza che invece non trovavi nei corrispettivi, anche perché molte altri computer dell'epoca non avevano effettivamente chip audio così avanzati, no? Beh sì, è stato poi la peculiarità che poi ha creato, esatto, anche un universo, no, dietro. Ha creato una retrocultura che tuttora, diciamo, esiste, che utilizza come strumenti musicali veri e propri tra i vari computer anche il Commodore 64, no? Perché tuttora, certo, c'è gente che li usa, sì. Che li usa per comporre musica elettronica, addirittura si va a scegliere, cioè ne possiede anche diversi modelli, perché ovviamente non tutte le revisioni del SID, no? Del Commodore 64 col SID suonavano alla stessa maniera, no? E quindi, insomma, questo mi ha sempre colpito. Questo guardate, una cosa la possiamo dire, andiamo a prendere anche dai nostri ricordi, la nostra esperienza, sì, perché questa è la puntata giusta. Due peculiarità fondamentali: il fatto che è stata la prima volta che ho visto un Music Maker, per esempio, comunque un'applicazione dedicata alla scrittura e all'elaborazione, insomma, della musica, ed è stata una cosa divertente, perché noi da Canzini ovviamente forse non l'abbiamo mai utilizzato al meglio delle sue potenzialità, ma sicuramente siamo divertiti, ed è stata la prima volta, e questo perlomeno per me, che abbiamo sentito anche, ho avuto un modo non solo di sentire un suono digitalizzato, ma anche del parlato, no? Esatto, ma poi anche un suono sintetizzato. E ti posso dire pure dove, vediamo se, perché la prima volta che l'ho sentito su Commodore 64 era con il mitico Mission, sì, Impossible, esatto. Stay a while, stay forever, che faceva pure paura poi, tutto, sì, fa sempre fatto, lo ripeto spesso sta cosa, ma mi metteva veramente l'angoscia. Invece il sintetizzato, c'erano molti sintetizzatori poi dopo nelle varie super compilation a cassette, quelli magari meno dedicata ai giochi, ma sì, magari a utilità più divertenti o roba del genere, ci stavano questi sintetizzatori che però essendo dedicati, comunque progettati per la lingua inglese, ovviamente dovevi barcamenarti per farlo parlare con una pronuncia simile italiana, e come ho detto già in altre occasioni, penso proprio forse la prima puntata dedicata al Commodore 64 nei vari intrattenimenti o in un altro podcast, quante cose brutte ha detto il mio Commodore 64. Quindi, ed è questa stata una ecco, l'audio è stato uno dei motivi preponderati. Ed invece, Gianluca, c'hai magari un altro esempio, un altro motivo secondo te? Allora sì, io mille. Penso che no, ce ne stanno tanti sicuramente. Per me la musica era, come per Giuseppe, assolutamente fondamentale. Però rendiamoci conto di questo: il Commodore 64 è uscito nell'estate del 1982, cioè in quel tempo andavano, cioè il grosso del mercato videoludico lo facevano Atari VCS e Intellivision. Poi vabbè, chiaramente all'inizio il Commodore 64 aveva pochi giochi, non erano granché, però c'era subito una struttura hardware che aveva l'istinto da console. Cioè il Commodore 64 è il successore del VIC-20, che era nato come un computer basato su un'architettura pensata per una console praticamente. Quindi il Commodore poteva fare questi sprite, hardware, sì, fondamentale. Lo scrolling, vabbè, c'è sempre la solita storia che dice che in realtà era una gabola e tutto quanto. Poteva simulare lo scrolling, sì, comunque era la grandissima cosa. Esatto, comunque riuscivi, diciamo, cioè ti sembrava davvero comunque grafica in movimento, sì, no? Ed è stata la prima macchina commerciale a farlo, e sì, questo è molto importante, perché poi la prima console, se non sbaglio, è stata addirittura il Master System, quindi parliamo di praticamente una generazione avanti, diciamo, quasi dal punto di vista cronologico, no? Mezza generazione avanti. Quindi c'era una vocazione diversa. E poi una cosa molto bella del Commodore 64 è che secondo me ha creato i presupposti per quella che è la cultura videoludica più approfondita, perché ha messo più in contatto il consumatore con l'artista che era dietro il videogioco. Tu quando compravi un gioco su console non sapevi chi l'aveva fatto, conoscevi l'azienda, la ditta, ma quello che c'era dietro spesso non ti veniva comunicato. Invece col Commodore 64 emergevano i talenti, quindi c'era la musica di Rob Hubbard, per dire, tu ti innamoravi di Rob Hubbard, cercavi cose di Rob Hubbard, e Manfred Trenz che faceva il Koji, e quindi tu andavi a ricercare il lavoro di questo artista, di conoscerlo meglio. E si è creato un sistema, cioè seguire il videogioco su console e seguirlo sul Commodore 64 erano due cose diverse, quindi secondo me era più coinvolgente come sistema, non era semplicemente più che, sì, dimmi, più che coinvolgente, direi, diciamo, più, cioè nel senso, cioè, veniva coinvolto sì in maniera diversa, perché comunque tu sì, ti focalizzavi più sulle persone, cioè vedevi chi c'era, chi, questo chi aspetto è, aggiuntivo chi, diciamo, chi stava dietro effettivamente al gioco, piuttosto che con le console tu comunque dicevi questo è realizzato da Nintendo, no, da Sega, sì, da quello sì, che sì, vuoi, cioè ovviamente non ti interessava, cioè, o comunque neanche ti sforzavi, vuoi, anche perché comunque avevano, essendo quasi tutti in quel versante giapponese, esatto, sì, giapponesi, comunque avevamo pure dei nomi molto impronunciabili e leggibili per Shigeru l'epoca. Shigeru Miyamoto, esatto. Mentre invece là, diciamo, ti sentivi più vicino, ecco, no, ai creatori. Esatto. Ovviamente questo non ha nulla a che vedere con la qualità, sì, assolutamente, è semplicemente una maniera di vivere la passione un pochettino diversa. Era però anche il motivo per cui, cioè, non era solo, visto che siamo anche in tema di giochi, questione appunto delle nazionalità eccetera, ma comunque anche due modi diversi poi di effettivamente di giocare veri e propri, perché comunque giocare, il level, sì, design, sì, sì, di molti giochi per Commodore 64, per quanto grandissimi giochi, comunque sì, erano, sì, molto, sì, più, sì, scarsi e anche mal progettati rispetto meno professionali, ai corrispettivi per console, no? E un'altra cosa che voglio aggiungere è che il Commodore 64 rispetto alle console aveva anche la tastiera, sì, sembra una stupidaggine, in realtà per quanto potesse essere, diciamo, danneggiato dal pad, dal joystick ad unico pulsante, che un po' di limiti li dava, indubbiamente era all'epoca quello, all'epoca era quello, e quindi però la tastiera ci permetteva di accedere alle avventure testuali, a piccoli strategici in cui bisognava interagire anche con qualche tasto in più, sì, insomma, che vabbè, quindi sopperiva volendo anche di fatto alla mancanza di input del joystick, esatto, perché c'è anche altre conversioni che magari che so, su NES 8-bit dovevi usare, che so, il pulsante B o Select eccetera, là, che so, magari io mi ricordo molte volte in alcuni giochi per 64 utilizzavi la barra spaziatrice, no? C'avevi sempre la sì, mano, sì, pronta, l'altra mano, vabbè, sulla barra spaziatrice, si dà proprio come categoria l'avventura, esatto, testuale ad esempio, no? Esatto, eh sì, nel senso, proprio chiaramente non sarebbe rimasta all'Apple II, esatto, chiaramente non sarebbe esistita, ma è chiaramente la tastiera è l'elemento in più, perché sì, per quanto possa essere stato progettato o pensato per essere una console, in realtà poi alla fine il Commodore 64 è stato, con i suoi limiti, un computer a tutti gli effetti, che lo differiva, voglio dire, dalle console che ti davano l'espansione tastiera per far finta che diventava un computer, sì, no? Sì, sì, certo, ecco, certo, di questo ne abbiamo parlato anche nelle altre puntate, nella storia del nostro programma, insomma, e questo è sicuramente un dato di fatto. Però ecco, gli sprite sono stata poi la fluidità degli sprite, e la semplicità di progettazione e disegno dello sprite, che è una cosa, esatto, importante, tant'è che poi anche noi poi piano piano abbiamo cominciato a saper gestire, no, quel tipo di discorso, il suono, e fondamentalmente è stato quello che è stato il VIC-20 contro lo Z80, no? Lo Z, sì, lo ZX80, cioè nel senso, sì, i colori in più e l'audio in più rispetto, sì, a tanti altri computer che magari tendevano a essere un po' più monolitici o monocromatici. Cioè per farvi un paragone tra la potenza nei giochi, vista nei giochi come Killer Application, per esempio, potete prendere la versione come paragonare, confrontare la versione come 64 di Last Ninja con quella per ZX80. No, vabbè, ma non lo fate, siamo il giorno e la notte, no? Come abbiamo detto, come è stato detto da Gianluca, sì, e da Gianluca Santilio, sì, e Stefano Paganini, la, sì, puntata dedicata allo Spectrum, sì, in realtà lo Spectrum ha avuto poi tutta una sua tipologia di giochi nei quali sicuramente è stato anche maestro per certi versi, ma nel videogame in generale, quindi in quello che erano i porting, lo Spectrum ha perso a mani basse proprio senza problemi, ma per tante ragioni di cui abbiamo discusso, e appunto abbiamo anche poi cercato di dire fra di noi, insomma, quali sono i motivi, insomma, per i quali il Commodore 64 invece in realtà era forte. Io ribadisco, la velocità e la fluidità della grafica del Commodore 64 erano, e poi c'era questa questione dei 16 colori che non era da sottovalutare. Anche se bisogna dire una cosa sul Commodore 64, che i colori del Commodore 64, e questo poi è un caso che forse si è ripetuto un po' col 128, però non era così col VIC-20 o con tanti altri computer, c'aveva questa tonalità un po' smunta, cioè questi colori sì, un po' sbiaditi, insomma, che non erano mai intensi, che tutto sommato, e qui lo possiamo dire tranquillamente col seno del poi, davano poi invece una caratura, no? Nel senso, era la pasta del Commodore 64, contribuivano a renderlo il marchio di fabbrica, esatto, cioè tu un gioco del 64 lo riconosci 64, al volo, esatto, no? mille giochi per tante altre console, ma anche quando guardavi dietro la scatola di quei pochissimi giochi originali, no? Delle che trovavi all'epoca, quando ovviamente c'erano gli screenshot di tutte le versioni, lo vedevi subito sulle tre la scatola qual era la versione per Commodore 64, no? Sì. E va bene, non credo che abbiamo altro da aggiungere in merito, insomma, in realtà poi ecco, gli approfondimenti tecnici li abbiamo fatti già con Sant'Agostino, quindi è inutile poi ritornarci sopra. Noi quello che poi ci interessa è magari anche quello che appariva ai nostri occhi, no? Quindi quello che ci affascinava, che ci è piaciuto e che noi, di cui noi ci ricordiamo. E, abbiamo detto 10.000 titoli tra software d'utilità e la stragrande maggioranza, insomma, un 80%, se non addirittura un 90% dei videogiochi, ripercorre la storia dei videogiochi del Commodore 64 è praticamente di fatto oggettivamente una cosa impossibile. Esiste una classifica che non so bene su che dati o su che merito è stata fatta, probabilmente è stata una scelta dagli utenti, esatto. Però noi, siccome che abbiamo deciso proprio di rendere anche merito e onore, insomma, a Ridi64.it, proprio Ridi64.it ha fatto una classifica dei 100 videogiochi più importanti della storia del Commodore 64. Io li direi tutti, però purtroppo oggettivamente sono veramente tanti. E allora noi abbiamo pensato un po' di fare una cosa. Tra l'altro, poi questa classifica, ci sono delle sorprese che veramente non mi sarei aspettato. Io avrei fatto i primi 25, dico la verità, però siccome che poi sono in malafede fondamentalmente, e c'è un gioco che sta al 49esimo posto, ne abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato, tra l'altro, io sono stufoso, oggettivamente non sono obiettivo. Per me questo è stato il primo videogioco, anzi è stato il secondo videogioco del 64, il primo è stato quello, il classico Track and Field, quindi quello atletica con cui spaccavi ovviamente i joystick, però è stato il primo gioco sulle quali veramente ci abbiamo fatto le stagioni intere, insomma, ed è un motivo perché poi mi sono detto vabbè, su questi 25 giochi diremo ognuno magari su quelli che ci vengono in mente o che ci ricordiamo, diremo magari il nostro aneddoto, però poi lo vedevo non c'è stava, dico scorri cioè vabbè, allora facciamo i 50 videogiochi più importanti deroga della storia del Commodore 64, anche perché secondo me comunque in Italia in maniera particolare penso gli va reso merito, ma anche perché c'è il 50esimo posto, un gioco che io lo cito perché è stato un gioco che a me mi ha angosciato tantissimo. A me pure. E mi faceva proprio paura. Sì, l'hai raccontato da qualche parte. No, più che altro perché se sei specialmente aracnofobico, no? I ragnoni enormi che ti venivano contro. Ogni volta mi ricordo che c'avevo gli incubi poi dopo che ci giocavo. E infatti, allora, di ambientazione fantasy, uno sparatutto del 1983, esatto, della Cosmi mai sentita nominare, Forbidden Forest. Cioè, chi è che lo vuole ricordare un secondo? Perché c'era sto fregno con l'arco starciere che andava in giro per questa foresta maledetta, suppongo. Ogni tanto arrivava sto ragno e te si mangiava la capoccia. Più che maledetta, proibita. Che mi pare, Gianluca, ne abbiamo parlato in qualche Non mi ricordo in quale occasione ne abbiamo parlato. Sì, che è riuscito anche lì il fatto che ti inquietava. Sì, assolutamente. Io di questo gioco sinceramente ricordo soprattutto la danza. Quando finiva il livello praticamente si metteva a danzare e partiva una musica. Sì. Che anche quella era inquietante, sì, in tutto questo. Cioè era tutta un'atmosfera particolare. Sì, ed è bello perché l'autore, Paul Norman, ha fatto un gioco che è fuori da questa top 50, che mi piaceva un sacco, si chiamava Aztec Challenge. Ah, beh, come no. Che aveva pure una bella musica, insomma, faceva queste cose un po' strane lui, faceva queste cose un po' strane che poi pare che, se non forse ne parlammo proprio in quell'episodio, in realtà il gioco in sé è anche abbastanza limitato, non era poi tutto il suo giocone, che no, però ebbe talmente successo che fecero il secondo, poi Forbidden Forest 2, che graficamente era più evoluto, ma vedo completamente assente dalla classifica, insomma. Quindi ecco, hanno fatto anche un Forbidden Forest 3D, se lo cercate su YouTube, vi fate due risate, ne abbiamo parlato. Allora, poi andando avanti, vabbè, Forbidden Forest, cioè, sacro assolutamente. Allora, ne dico uno io? Di che? Così, tanto per di quelli che mi ricordo pure io abbastanza. No, ma io sto seguendo la classifica, quindi adesso il 49esimo posto, appunto, è il motivo per cui abbiamo esteso a 50, quindi l'anno dopo, nel 1983. Passiamo al 25esimo dopo. E poi, addirittura prodotto da Commodore stessa, Andrew Spencer, ne abbiamo citato ovviamente nelle fantastiche puntate dedicate al calcio che abbiamo fatto io e Gianluca, che sono piaciute tantissimo, cioè International Soccer. Poi abbiamo raccontato, andatevela a ripescare quelle puntate, perché abbiamo raccontato anche la storia, insomma, che stava dietro questo gioco, il fatto che questo del calcio magari non gliene fregava niente, che però gli avevano commissionato sta cosa di fare questo gioco sul calcio, lui se l'è andato a studiare, aveva creato insomma il suo prototipo, che poi tra l'altro ha replicato anche sul basket, su altri sport, se non sbaglio, ovviamente con minore successo, insomma. Non so se ve lo ricordate, io a questo gioco l'ho giocato tantissimo, cioè. Sì, mamma mia, io mi ricordo delle sfide che facevo con mio padre, che era uno dei pochi giochi per cui insomma mi sentivo così, diciamo, legato, cioè con quel senso di comunione ludica tra padre e figlio, no, al computer, uno dei pochissimi. Anche poi mi ricordo che comunque era forse per me quello era il gioco di calcio su 64, non esistevano altri, forse anche proprio perché mio padre, non lo so se altri, non me ne mai fece provare, comunque non riuscì mai a capitarne io altri. Quindi insomma per me, diciamo, è rimasto quello. Però prima di andare avanti posso dire un titolo che era prima del 50esimo che ci tengo a ricordare. Prima e dopo, cioè, o se dopo sì come no, esatto, solo questo perché ci tenevo. Ce n'è ovviamente al 56esimo, c'è The Great Jana Sisters. L'ho sempre osannato. Esatto, osannato. Aspetta, per strano, perché, però perché, sai. Aspetta, perché ci giocavo su Amiga. Però io mi ricordo che esisteva una versione hack, cioè modificata proprio in quei tempi, per Commodore 64, che sostituiva gli sprite e i nemici di Jana con Mario, e si chiamava proprio Super Mario. Infatti, io la prima volta che lo scoprì, che in quel, cioè, insomma, cioè, sapevo che Nintendo non avrebbe mai prodotto il Super Mario per 64, però ebbe uno shock culturale praticamente. Ma strano che è finito al 56esimo posto, poi tra l'altro, vabbè, ma se per questo manca anche in classifica un altro gioco che secondo me è una delle conversioni migliori per prese, diciamo, direttamente dalla sala giochi, che ve lo ricordate, Robocop su Commodore 64? No. Era fantastico, anche perché ed è più lontano, che posizione l'hanno messo? No, l'hanno proprio inserito. Ah, non c'è proprio, non manca c'è proprio, secondo me questa è una. Io vedo pure al 53esimo posto Stunt Car Diciamo così, non siamo d'accordo con questa canzone. Esatto. Però purtroppo noi da qualche parte dobbiamo iniziare, perché metterci noi a fare, a magari a tirare fuori classifiche, stilarle, e poi magari rielaborarle veramente, insomma, ragazzi, i giochi del Commodore 64 li trovate. Cioè, ma guarda, poi pure al sessantesimo non si finirebbe mai. Solo al sessantesimo Myth, dai, che era, diciamo, il platform per fantasy, dai. No, ma ti devo dire che questa classifica mi sorprende, soprattutto i primi tre posti, poi dopo ne parliamo, insomma. Però arriviamo anche al 48esimo. Arriviamo al 48esimo, e questa è più roba vostra, perché io i platform ci ho sempre fatto un po' poco. Della Ocean 1990, platform coin up, e stiamo parlando di Rainbow Island, ossia il seguito di Bubble fondamentalmente, no? esatto che poi qua diciamo che non mi ricordo dimmi, se dimmi, perché Peter. Diciamo io lo giocai anche su Amiga, purtroppo, nel senso, cioè, e quindi ho ricordi confusi. La versione per 64 aveva nella musica pure come diciamo la versione arcade e quella Amiga Over the Rainbow riarrangiata, sì, forse sì, oddio, questo non me lo ricordo sinceramente, perché comunque a parte questo poi diciamo era perfetta come conversione, perché mi ricordo che i livelli erano quelli, i boss c'erano tutti, non saltava niente, c'era pure riportato esattamente come nel coin op il fatto che dovevi prendere tutte le gemme, no, poi per ottenere il miglior finale, no, vai. No, dicevo, bella conversione, sì, assolutamente, che poi tra l'altro fa parte di un bel gruppo di conversioni fatte bene su Commodore 64, uno dei motivi del successo. E questo aveva scrolling, perché ricordiamo questo gioco ha scrolling verticale, cioè dal basso verso l'alto, ricordiamolo sempre come struttura. L'unica cosa che secondo me manca rispetto all'originale coin-op, oppure alcune conversioni come quella per Amiga, è la palette, perché chiaramente qui la palette del Commodore 64 penalizza un po' l'atmosfera. Gli arcobaleni sono tristissimi, però ecco, il gioco comunque c'è, è fatto bene. La sviluppatore è la Graft Gold, un team molto molto capace, insomma, di queste generazioni. Gliela mollavano. Io me lo ricordo invece come un gioco abbastanza truculo, se non mi sbaglio, al 47esimo posto. C'è poco da dire in realtà adesso gioco. Ah, Barbarian, no, ovviamente. Era figo graficamente. Tutti ricordano Barbarian per la figata che c'era. C'era una mossa che era tipo la roteare la spada partendo da indietro, che ovviamente se riuscivi a colpire al momento giusto l'avversario, gli facevi saltare la testa. E poi quando quello moriva, ovviamente c'è stava il goblin che si trascinava la carcassa ridendo o ghignando, una cosa del genere. Barbarian di Ultimate Warrior, un gioco, insomma, la prima fatality della storia, penso. Questo dimostra, insomma, che tanti poi alla fine non si sono inventati niente. Non so se ci avete aneddoti particolari su sto gioco. Io io poi ero impressionabile da bambino. Come era impressionabile Giuseppe Saso, perché se non mi sbaglio al 46esimo posto c'era con una media voti di 8,56 c'è stato un gioco dell'Activision che me faceva paura, e stiamo parlando di un gioco che quando tu lo accendevi la musica tutto quanto era una figata, poi il gioco in sé era pure una mezza cagata, insomma, diciamo, ed è Ghostbusters. Ma no, io avevo paura perché era cagata, era particolare. Perché diciamo mi faceva paura, perché faceva impressione che siccome questo gioco cominciava effettivamente con la sigla del film, la voce, se non sbaglio, non dico che c'era tutta la canzone, però diceva almeno Ghostbusters, poi c'era la pallina stile karaoke però comunque mi inquietava ovviamente la musica. Poi il gioco di per sé era un mezzo, siccome era un tie-in del film, no, quindi doveva riprendere un po' tutta la storia, cioè c'aveva diciamo la parte gestionale dove te compravi la macchina, te compravi gli accessori, che non te dovevi scordare l'aspirapolvere, altrimenti non potevi fare niente, no, per tirarti i fantasmi, e poi dopo dovevi via via acchiappare tutti i fantasmi finché al centro non spuntava l'omino, quello dello Stay Puft, ossia quello della mascotte de Michelin, no? Americana, e poi dovevi scalare, mi pare, entrare in un palazzo e arrivare fino alla fine, e poi la vincevi. Esatto. Beh, questo era un gioco che faceva molto leva sulle doti multimediali del Commodore 64. Ma se non sbaglio fu una delle conversioni dei tie-in di film che vendette di più su Commodore 64. Sì, però la parte finale, quando dovevi salire sul palazzo, era terrificante. Sì. Cioè, e comunque ricordiamo che questa versione è mille volte meglio del corrispettivo per Nintendo. Ma me la conversione per Nintendo ci vuole poco. Che è nazzata. Ne ho sentito parlare. Tra l'altro, questo gioco era di David Crane, cioè Mr. Pitfall. Esatto. Grossa firma. Un uomo che poi si è andato a rovinare con Kickstarter. Infatti, abbiamo parlato recentemente di questa cosa, insomma, prima della Camporella. Mm-hmm. Giustamente. Allora, andiamo poi al 45esimo posto. Gioco a me completamente ignoto, perché mica posso riconoscerli tutti. Quizball della Ocean 1987. È uno sparatutto che è monocromatico, è quello che vedo sulla Luna, penso, suppongo che sia ambientale. Sì, tonalità sul grigio, sicuramente principale. E questo lo fece la Sensible Soft, cioè Chris Yates, uno dei. Quindi importante, diciamo, il prequel di WizKid, che su Amiga forse abbiamo, che poi in realtà non c'entra quasi niente con WizKid dal punto di vista del gameplay, è abbastanza diverso. Sì, allora ti dico la verità, a me questo qui non è che ha fatto impazzire, però ci sono tanti fan del gioco, quindi ricordiamoci anche che noi molti giochi che stiamo leggendo probabilmente voi li avete giocati con Ti sparo sulla Luna o Omino che salta, Omino che salta, vampiro malefico, palla che rotola, cose così, perché cioè, abbiamo raccontato mille volte, voglio tornarci sopra, insomma, su questa questione. Però ecco, io questo gioco veramente ammetto mi manca, insomma, quindi se volete raccontare qualcosa voi, credo che possiamo andare tranquillamente tranquillamente con 8,58 di media al 44esimo posto. Ci abbiamo un gioco della Genius, come penso che sia il distributore, 1992, quindi insomma già bello avanti con gli anni del Commodore 64. Questo è nostro, spara tutto orizzontale. Catalypse. Italiano. Sì, sì, la Genius. Era uno sparatutto impressionante dal punto di vista tecnico, veramente fenomenale. Era praticamente R-Type con gli steroidi per Commodore 64. Cioè era meglio della conversione per 64 di R-Type. Sì. E tra l'altro questo qui, da quel che ricordo, voglio dire, è uno dei videogiochi con il miglior finale su Commodore 64. Cioè uno vede lo sparatutto così, dice vabbè, chissà che, cioè, finisce la solita schermata congratulazioni. Invece no, c'è la sequenza finale, bellissima. No, io sto scusate, non c'entra niente, però sto guardando se si entra nella scheda, si può, io non so quanto sia una cosa regolare, però ringraziamo sempre PD 74, si può scaricare il gioco, ma c'è anche il manuale scansionato, quindi vabbè. Ah sì, non protesteranno. Non credo, non protesteranno. Che molti di questi saranno anche morti, probabilmente. No, dai, magari ci ascoltano. Allora salutiamo. Tra l'altro, il coder, lo salutiamo, Andrea Pompili, sperando che ci segua davvero. E tra l'altro, un piccolo trivia su questo gioco, che è del 92, quindi è età avanzata, diciamo, del Commodore 64. Praticamente venne recensito in Inghilterra da Zap e lì diede 30%. Cioè, scandaloso, assurdo. Assurdo, cioè proprio per razzismo, nel senso che è un gioco italiano, farà sicuramente schifo, e lì misero sto voto. Invece, diciamo, chissà perché lo pensavano poi in realtà. Sì, vabbè, però fu a pieno titolo, poi è entrato tra i migliori sparatutto orizzontali per 64. Tra l'altro, parlando di cose italiane, mi pare di aver letto da qualche parte, linkato da qualcuno, che ci sono dei musei sotto sfratto in Italia. Attenzione, non lo so, pure mi sembra strano, perché sono sempre state iniziative molto trasparenti. Ma lo fanno qualche volta quando cambiano le amministrazioni, sai, può cambiare qualche cosa. Comunque, al 43esimo posto, andiamo. Aspettando solo una cosa. Il migliore a scorrimento orizzontale è Catalypse, però io vi consiglio, visto che l'abbiamo detto in maniera velata ad apertura della puntata, invece il migliore italiano per me a scorrimento verticale è Bomber Bob. quindi ve lo consiglio. Sì, che poi ho detto una minchiata prima e non c'è per 64. Ah, ok, va bene. Quindi ritiro tutto, mi rimangio tutto, scusate. Va bene. Comunque, al 43esimo posto si infila anche in maniera truffaldina un gioco con 8,58 di media, che lo dico in maniera truffaldina perché è della English Software. Guardando la schermata un po' si capisce anche il perché. Siamo proprio i tipici giochi da Spectrum. Cioè, il... Però questo è stato il mio gioco preferito di quando però ero bambino. Però è il tipico gioco da Spectrum questo. Perché se capisce che è una conversione probabilmente. Io... Ma proprio graficamente... mi sa di no, mi sa di no. No, proprio concezione. No, mi sa perché non c'è manco per Spectrum. Questo qui lo fece un ragazzino di 15 anni, penso un po'. Ed era è praticamente Manic Miner. Esatto. Plagiato. Sì. Sì, di noi altri è fatto è molto carino. Stiamo parlando di Harris House, molto meno schermate. Giusto, sì, giusto, scusate, non l'abbiamo detto ancora. Casa dolce, casa sulla mia cassetta. Sì. E quindi aveva. Era fatto bene, era simpatico per i bambini, perfetto, assolutamente. Era difficile perché c'erano alcune schermate con animazioni che c'erano sprite che se ti toccavano ti ammazzavano, se cadevi da qualche pixel di troppo di altezza ti ammazzavi. Erano però i giochi funzionavano proprio a pixel, cioè nel senso, era sempre sì. Ripeto, il level design di una volta nei giochi per computer, no? Esatto, sì. Tagliato con l'accento, esatto, sì. No, ma a volte era, ma non era cioè a volte non era solo questione di tra virgolette di ignoranza, di non essere di inesperienza, era anche a volte questione proprio di volerlo fare difficile il gioco. Sì, sì, sì. Cioè, infatti, di sfida. Ma ti ripeto, Manic Miner proprio. Esatto. Quindi, sì. Beh, sì, i giochi ti perdonavano veramente molto poco, insomma, in generale. Comunque, andiamo avanti. C'è un gioco clamoroso. Sì, che io ricordo col nome di 007 o qualcosa del genere. Sì, sì, qualcosa di certo. O fai lo spione, qualcosa così, insomma. Perché stiamo parlando di un gioco del 1984, sì. La First Star Software Beyond, che è Splash, quindi probabilmente è uno e l'altro, probabilmente. Sì. È un arcade. È un gioco che ha preso su questo sito, quindi ridi64.it 8.6 di media. Si chiama Spies vs. Spies, sì. Che è Spy vs. Spy, senza il plurale. Che era un gioco che c'era anche per Spectrum, se non ricordo male. Sì. E ci abbiamo giocato tantissimo. Allora, un gioco terribile. Io ne posso parlare tanto di questo. Terribile nel senso anche positivo. Sì, sì. Nel senso che... Allora, innanzitutto, sto gioco era un gioco che dava il meglio se giocato in due. Esatto. Perché ovviamente, siccome è sempre una sfida tra due spie che devono riuscire nella mappa a trovare dei documenti, mi pare, alla fine riuscire anche a prendere, a uscire dalla porta quella dopo che avrei preso tutti gli oggetti. Però comunque lo scopo del gioco, se giocavi in due, spariva completamente. Sì, l'obiettivo vero del gioco diventava socializzare con la sì, ma anche il discorso proprio perché l'intelligenza artificiale della CPU invece era molto scarsa, no? Potevi insomma fregarla facilmente. Un'altra cosa chicca che non so se voi vedete la schermata principale, quella della scheda, è che avete presente perché Mad Magazine Official, perché questi due spie con la testa a triangolo in realtà non sono stati creati appositamente per il gioco, ma sono il risultato, cioè sono licenziati da una rivista che si chiama appunto la rivista Mad di quei tempi, che praticamente aveva al suo interno delle strip di fumettini satirici con queste spie come protagonista. Quindi era in realtà quello che sarebbe oggi un videogioco basato sui fumetti, praticamente. Ah, un tie-in, esatto, diciamo, dei fumetti. Che poi secondo me era un personaggio, erano personaggi che io non ho mai visto, però in realtà ti danno la sensazione di. Che poi oggettivamente che so, sorci, che so, non si capisce perché. No, sono delle spie con la testa a triangolo. Quasi tapirino. Esatto. Vedete pure la locandina, ovviamente. Cioè, poi c'è da dire che sto gioco in realtà poi è stato pure convertito fino a qualche anno fa pure per iPad, se ricordo bene. Comunque è tornato. Sì, pure. Sì, sì, ma sono tanti anche per Game Boy. C'è la copertina in altissima definizione, ragazzi, bellissima. Cioè, sì. Che se voi andate a vedere, la First Star Software c'ha la star scritta praticamente che Giorgio gli poteva tranquillamente fare causa, cioè proprio ma proprio anche subito, insomma, quindi ma questo è stato un gioco divertentissimo perché giocato appunto come diceva Giuseppe in in coppia, in cooperativa, cioè, esatto, uno contro l'altro ti uccidevi veramente da risate, era, forse a lungo andare dopo un po' stancava, ma in linea di massima insomma era veramente divertente. Io andrei avanti se non avete altro da dire, perché insomma qui la classifica la stiamo scalando ed è lunga, 8.6 anche questo, 41esimo posto, quindi diciamo anche a pari merito tutto sommato, è un gioco della Epix nel 1984, Sport, ragazzi, cioè è stato un gioco, il gioco multi evento sportivo per me, forse per... Per me diciamo era più sempre fatto alla Epix, era più il California, diciamo, che diciamo tanto, Summer, diciamo tanto il titolo che è Summer Games, esatto. il primo. Ma California Games era sì più tamaro, era più divertente. Tra l'altro la versione più Amiga era più divertente, cioè nel senso anche più bella visivamente. In realtà Summer Game, per chi era appassionato dei multi evento sportivi, cioè dove c'erano gli sport olimpici veri, era proprio il gioco delle Olimpiadi. Cioè. Vabbè, c'era questo e poi quello che vedremo anche più avanti, l'equivalente invernale, che era pure carino, perché comunque il pattinaggio artistico. Che non si sa, perché, non si sa però perché sta sopra in classifica. Cioè, per me un po' curiosa. È un po' curiosa sta cosa, però ecco, la cosa bella di Summer Games non solo che c'erano, potevi sceglierti e farti la tua nazionalità, e quindi c'era la bandiera, c'era l'inno, la cerimonia d'apertura, c'era la cerimonia di chiusura, bellissimo. Cioè. Che poi in realtà aveva diverse modalità, perché tu potevi decidere di fare sia cominciare appunto con tutta la cosa multievento, oppure prima potevi fare pratica e provare le singole specialità finché insomma non ti sentivi pronto per fare l'Olimpiade vere e proprie, se vi ricordate. Io ho un ricordo proprio affettivo di questo gioco, quindi, e degli amici con cui ci giocavo, soprattutto in particolare Daniele, un amico insomma con il quale siamo cresciuti insieme, e ci facevamo proprio, lui si prendeva sempre la Germania, faceva la Germania, non so nome, perché c'era questa cosa bella Germania, forse perché era un po' nazista. Vabbè, detto in amicizia al 41esimo, posto invece con una media di 8,63 è altro giocone, perché parliamo di Pit Stop 2 della Epix, sempre 1984, gioco di corse che aggiungeva rispetto a Pit Stop 1 il fatto che mentre correvi le ruote cominciavano a cambiare colore, che ti faceva capire che si degradavano, e c'era la grafica del pit stop, quindi del cambio gomme, grafichissima. Controllavi il meccanico. Controllavi il meccanico che andava che portavi e dovevi sbrigarti anche lì, perché faceva parte anche quello della gara. Non mi ricordo se era, non me lo ricordo proprio io personalmente, se era una gara a tempo o se era una gara a giri, cioè nel senso se dovevi arrivare veramente primo. No, era a giri. Dovevi arrivare veramente primo. Era a giri, era proprio una simulazione vera e propria, sempre arcade di Formula 1. Okay, no, perché ricordiamo che i giochi vecchi erano in realtà era survival run. No, nel senso che non era outrun, per intenderci. Non era certo il primo pole position, la stessa cosa, cioè nel senso andavi avanti fino a che non finivi, cioè poi dopo continui. E poi anche questo, come vediamo dalla schermata proprio della classifica, prevedeva anche questo la modalità split screen. Assolutamente sì, che c'era lo split screen e giocavi contro il tuo amico, e che era anche questo un'altra bella bel motivo per mazzularsi. Poi se ci pensate, in realtà rispetto ad oggi tanti giochi, se non dico quasi tutti, ma tanti giochi prevedevano il giocare in compagnia con l'amico, no? E questa è un po' una cosa che oggi forse si è andata un po' persa, se non alcuni giochi in cooperativo o il multiplayer, chiaramente, che vabbè, quello è proprio entra quello, in un altro abbiamo cambiato le abitudini. Più che altro io sarei dire degenerata, con una versione proprio visione pessimistica. Però io per esempio quando ci capita ancora che giochiamo a casa con Matteo e con Marco, con Waldi, e giochiamo, facciamo i tornei di FIFA, è quello ancora l'ultimo baluardo, no? Per certi versi è un modo di vivere insomma il videogioco come lo vivevi una volta insieme ai tuoi amici, insomma questa è una cosa. Comunque anche grande gioco veramente di corse, se vi capita giocatevelo, perché era divertentissimo, ma dovete immaginare lo stupore della grafica, era coloratissimo poi fluidissimo e anche veloce, chiaramente, quindi andiamo al 39esimo posto, si assesta un altro gioco della Commodore 1983 ed è un altro sparatutto, Labirinto Coin Up, visto le definizioni che gli è stato dato, con 64 e 65 ci abbiamo Wizard of War, ma scritto proprio War, sì. Beh, uno dei giochi che la Commodore voleva promuovere per il lancio del computer, insomma, più che altro. Fatto bene, è molto fedele al coin-op, molto molto fedele. E, però, secondo me questo qui non è stato molto diffuso poi tra i giocatori del Commodore 64. Non grandissima penetrazione, forse. Non c'è il gioco, non lo potete scaricare da, non c'è neanche il manuale, però c'è la locandina sempre in alta risoluzione dei cenni, diciamo. Per dirti, io non ricordo di averlo mai visto giocato proprio. Probabilmente si chiamava Scappa dal labirinto, così proprio a occhio non mi dice niente. E a quel punto, se non ci avete nient'altro da aggiungere, piccola curiosità che non c'entra col Commodore 64, Wizard of War, cercatelo su Astrocade, che è una console sfigatissima sulla quale abbiamo fatto una puntata, perché era una delle migliori conversioni per la macchina, insomma. Fine. Va bene, allora andiamo avanti. Scusate, io mi parlano dalla regia nel frattempo. Andiamo al 38esimo posto con 8,67, un altro gioco della Epix, chiaramente, perché rientra insomma nella collana di giochi che abbiamo citato prima. Giuseppe ha fatto un punto di riferimento nel 1985, sempre multievento sportivo, e parliamo di Winter Games, che era il fratello invernale di Summer Games. E questo pure mi è piaciuto tantissimo, anche questa cerimonia d'apertura ai nazionali, se non sbaglio, però me lo ricordo di meno, perché non è che ci sei proprio impazzito. C'erano alcuni giochi, alcuni eventi non sapevo manco come si facevano, insomma. Io per esempio ricordo uno degli eventi che era quello tipo del doppio triplo salto mortale con gli sci partendo dall'alto, che non mi riusciva quasi mai, dopo avere fatto tipo due volte la piroetta a atterrare, se no ci sarò riuscito per culo una sola volta in tutta la mia vita per puro caso. Mentre l'evento più brutto era quello che facevi sempre con gli sci, però tipo ti facevi tipo la camminata col percorso, ogni tanto poi dovevi pure sparare col fucile. Non so se avete il biathlon. Esatto, il biathlon. L'ho sempre odiato come sport. Era forse il più brutto di tutta la raccolta. No, ma tra l'altro a me è capitato anche di vederli in televisione e faticavo solo a guardarli. Infatti, i multievento sportivi reali sono faticosi, tipo che ne so, il triathlon, queste cose qua che sono veramente infernali. No, anche perché il triathlon, per camminare con gli sci, dovevi fare la cosa stile track and field, destra-sinistra con la levetta del joystick all'impazzata, e la partivano i joystick che era un brio. Ma io c'avevo la fortuna che c'era il padre di un amico mio che ce li costruiva lui, quindi alla fine dopo un po' con micro switch, quelli belli, faceva quelli proprio blocchi di metallo, cioè indistruttibili, cioè delle cose che sono andate avanti per anni, insomma. Quindi è grande soddisfazione. No, vabbè, io comunque Winter Games non ricordo bene, perché comunque tutta la collana dei giochi Epix, anche i successivi, quindi i due, diciamo così, me li sono giocati. Però appunto, sempre rimanendo con Epix, che sta vivendo in questa classifica la sua fase d'oro, al 37esimo posto, 8,69 di voto, ovviamente il già citato da Giuseppe California Games del 1987, che era divertente, ma secondo me su Commodore 64 questo gioco un po' soffre rispetto alla versione Amiga, che invece era un po' più tamarra, insomma, nel senso era un po' più colorata, cioè ovviamente c'erano i suoni digitalizzati, insomma, tutta una serie di cose che chiaramente poi alla fine è. Però ecco, insomma, se Giuseppe l'ha giocato su 64, suppongo se vuoi accennare qualcosa. Che eventi c'erano? Allora, gli eventi che io in assoluto preferivo era ovviamente quello per i skateboard, anche se non mi riusciva spesso fare insomma i trick, è quello che per niente è diventato il precursore di tutti i Tony Hawk moderni, fondamentalmente, no? Poi quello che poi c'era anche bello quello sia tipo Exit Bike con la bicicletta, no? Quello sportivo che dovevi fare pure là delle evoluzioni, eppure mi pare il pattinaggio, c'era pure un pattinaggio non sul ghiaccio ma con i pattini a rotelle, che dovevi pure con la ragazza, la facevo sempre cadere, esatto, di culo che proprio davo la culata perfetta per atterrare. Vi do una particolarità, così, che non c'entra niente, ma ovviamente quando, a differenza dei Winter Games e Summer Games, quando tu inserivi il nome del tuo personaggio, non è che c'erano i nazionali, potevi scegliere scegliere le squadre che erano sì. Epix, Costa del Mar, Kawasaki, Casio, proprio Casio, quindi proprio Casio. Roba proprio Ocean Pacific, un piccolo riferimento, sì. Insomma, l'Ocean Pacific non è quella dell'Host poi? Non mi ricordo, Oceanic. Santa Cruz, e poi c'era Auzie, che non so assolutamente come si possa pronunciare, Spinjammer e Ride U. Insomma, questi erano, insomma, per farti capire, probabilmente sì. Ognuno di questi aveva la sua, probabilmente, musichetta. Sì. Il gioco non c'è neanche in questo caso. Non c'è, no, assolutamente no, ma non c'è neanche il manuale, però c'è la copertina, insomma, se volete. Anche questa bella grossa. Altro evento caruccio era sempre pure quello del surf, dove c'è la gnocca, tra l'altro. Mitico, esatto. Mentre secondo me il più brutto, se vi ricordate, era quello che tipo c'avevi la pallina che, con la ragazza che dovevi fare, terribile, esatto. Terribile, il più brutto della raccolta, la paranoia me. Proprio quella cosa. E a quel punto andiamo avanti invece questo giocone. Questo sì, quello che avevo detto pure prima. Mi ha sorpreso il fatto che sia al 37esimo posto con 8,69 di media. Il primo di una grandissima trilogia, oserei dire, anche perché. Però c'è il secondo più alto. Esatto, anche perché direi che vabbè, System 3, insomma, era un grande nome nel. Parliamo di un gioco del System 3 di 1987, avventura arcade, gioco isometrico, per capirci, insomma, perché voi giovani non sapete neanche che cosa significa. Anzi, forse adesso ultimamente un po' forse qualcosa è ritornando. Si chiama il gioco è The Last Ninja, giocone, questo è pure grosso, cioè nel senso. Chi ne vuole parlare? Action Adventure. Allora, era Adventure. Io mi ricordo di averlo sia giocato in versione integrale originale, cioè originale nel senso la cassetta copiata dall'originale. Sia in versione, purtroppo, perché lo conobbi prima. Sì, no, l'uomo mascherato. La cosa brutta è che la versione da edicola, quell'uomo mascherato che dici te, Simone, comprendeva solo alcuni livelli. Quindi entrando in alcune schermate, poi il gioco inesplicabilmente si bloccava. Non potevi più andare avanti. No, perché in realtà comunque come gioco era un adventure dove tu dovevi riuscire a proseguire. Per riuscire a proseguire non dovevi solo ogni tanto sconfiggere alcuni nemici, che non era manco facile da fare le mosse, anche perché avevi solo praticamente una barra di energia e basta. Se morivi dovevi ricominciare da capo, ma c'erano veri e propri enigmi che tipo dovevi prendere degli oggetti, mi ricordo, e spostarli e usarli in altri punti, quindi con backtracking assurdo. Infatti dovevi cominciare pure a fare le mappe, perché non avevo un sistema di mappe interno, ovviamente, per quell'epoca. E poi ricordo che il primo era ambientato appunto nel Giappone feudale, da là infatti conobbi insomma ninja, tutta sta cultura giapponese. Poi il secondo, che è appunto il più famoso, è quello dove il protagonista torna per ammazzare quel cattivo, praticamente viene trasportato nel futuro ai giorni nostri, ed è a New York ambientato, se vi ricordate. E poi alla fine del secondo tornava ovviamente nella sua epoca per mettere insomma fine una volta per tutte ai piani del cattivo. Guarda, stavo vedendo, ovviamente c'è tutta la serie di voti che ci stanno, c'è uno che gli ha messo 3. Scrive, vabbè, grande successo spettacolare, ma gioco banale, a giocabilità banale, l'avranno insultato. Scrive tutta una serie di stronzate, infatti poi dopo lo insultano tutti e per compensazione mettono tutti 10. Però lui che è stronzo, perché si sono proprio i troll stronzi, ha rifatto un'altra recensione e gli ha ridato 3. Vabbè, voi potete capire insomma che purtroppo... Era comunque difficile, perché ripeto, appunto, a parte pure i combattimenti, se ricordo bene, pure c'erano anche dei salti, vi ricordate? Ragazzi, dare tre a un gioco di quell'epoca, dove il più stupido spaccava il culo a Lucelletti, insomma, è un po' ridicolo. Cioè, il gioco è un giocone, cioè, nel senso, io me lo ricordo proprio. Sì, ma solo di scenario, di fantasia, di assolutamente. Poi ecco, sul fatto che dell'isometrico era una sorta di quasi adventure, che poi non so se vi ricordate, forse la cosa più difficile di questo gioco effettivamente erano i controlli, perché non so se vi ricordate che per esempio dovevi pure utilizzare una particolare combinazione joystick pulsante anche solo per farlo voltare nella direzione che vuoi, perché altrimenti lui continuava comunque a fissare, a guardare una direzione indietreggiare controlli tank di Resident Evil, per darvi un'idea. Sì, che sicuramente, ragazzi, cioè quando i giochi cominciavano a diventare più complessi anche dal punto di vista del concepimento, purtroppo poi le periferiche di gioco quelle erano, quindi quelle era facile o anche vi ricordate com'era difficile farlo un attimo abbassare per raccogliere gli oggetti? Non so se ve lo ricordate. Perché tutto sommato il troll di prima non c'aveva tutti i torti, però diciamo che dagli tre, capito, per due volte sono un cretino. Esatto. Cioè, mi dispiace, non ti nomino neanche perché non ti meriti la pubblicità, ma sei un cretino. Comunque bellissima cover con gli occhi del ninja, secondo me assolutamente, storici. Assolutamente. C'è la copertina, non c'è il gioco, anche in questo caso non lo potete scaricare, non c'è il manuale, ma c'è la copertina, insomma, ci sono molti screenshot. Tanto lo trovate sì, assolutamente sì. Però vabbè, io dico per quello che vedo qua su. Comunque, anche in questo caso, questo lo potremmo considerare il precursore di Ninja Gaiden, della serie Ninja Gaiden, fondamentalmente, no? Non so se non ti so dire, diciamo, guarda, sinceramente come concept dell'86 ti sei sbilanciato in un'affermazione che meriterebbe riflessione. Come concept ti dico, come concept col ninja, con le schermate, con la difficoltà nei combattimenti, no? Comunque sì. Sì, no, l'unica cosa è, non so dal punto di vista cronologico se è arrivato prima, no, perché comunque è dell'87. Non mi riferisco però, diciamo, al primissimo Ninja Gaiden, alla serie diciamo, okay, Ninja Gaiden, okay, certo, più di next gen, no? Okay, non okay, diciamo okay, il Ninja Gaiden Arcade o quello del NES che, 2D no, platform, no. Ok, sì. Va bene, abbiamo parlato abbastanza, andiamo avanti, perché comunque con 8,71 al 35esimo posto appare un'altra software house di quelle che ha fatto di un genere specifico di giochi, insomma, il suo successo fondamentalmente. 1988, un gioco di corse auto, visto in soggettiva, quindi là dentro l'abitacolo, si chiama Grand Prix Circuit. Che io sto gioco, devo dire la verità. Forse l'avrò giocato, no, io, corri la macchinina. Io diciamo che Accolade per me l'associo più all'altra serie più famosa, che è Test Drive, no? Sì, esatto, infatti per quello dicevo. Comunque il genere che ha fatto, anche qui vedo voti tipo 8-9. Non disponibile, questo non ha votato, c'è uno che non ha votato, non ha dato 7. E gente che si scaglia contro se stessa, bellissimo. Vabbè, vedete, è carino, perché comunque questo sito ti dà anche l'opportunità di vedere in che maniera si è sviluppato. Chissà se in realtà è ancora, cioè, nel senso, se è ancora in essere, probabilmente sì, chissà, no? Ci dobbiamo informare. Meno frequentato di un tempo, magari, però non vedo il modo, se è ancora aperta la votazione, capito? Cioè, questo non riesco bene a capire. Ah, registrati per votare. No, vedi, ancora aperta. Questa è una cosa che si perpetuerà negli anni, fino a che ovviamente il mondo finirà, chiaramente prima o poi finirà. Allora, vabbè, insomma, io su gioco non c'ho poco da dire, non so se ci avete da dire voi, perché non... No, giusto, dico che l'hanno fatto gli stessi che dopo faranno Stunts, cioè 4 Sports Driving, quella roba lì. Infatti il motore 3D già si vede che è fatto con cognizione di causa. C'è anche gli specchietti dei retrovisori, ragazzi. Dici niente, su 64. Insomma, non da poco. Invece vediamo un altro gioco che anche questo ha la sua popolarità, perché Talamus. Sì. Anche questo è un gioco vecchiotto rispetto alla, insomma, verso quasi a fine vita del Commodore 64, perché è 1992, scrolling screen platform, è un gioco al 34esimo posto, 8,71. Stiamo parlando di Creatures 2, Torture Trouble, che è appunto seguito del primo Creatures, era mai partita la dentiera praticamente. Che era seguito del primo Creatures, che è sempre, diciamo, questo platform è sempre ricordato per il fatto che gli animaletti che tu dovevi andare a salvare venivano, man mano che passava il tempo, torturati, proprio come dice, nelle maniere più truculente possibili. No? C'era tipo quello sotto la pressa, ricordo, quello con la lama che andava, tipo il ruolo del trasportatore che lo portava verso la lama circolare, no? Queste cose qua. Però mi ricordo la schermata di introduzione del gioco, che meriterebbe una causa da George Lucas, anche questo. Sì. Però ricordiamo che comunque era un bellissimo platform. Poi ricordo che tu come arma avevi solo tipo questa specie di fiatata di fuoco, no? Che potevi utilizzare contro i nemici, no? Mi sembra di sì. Comunque mi ricordo che il secondo era terribilmente difficile. Era incredibilmente difficile. E poi soprattutto era concentrato sugli schermi della tortura, appunto, non sui torture screen. Invece il primo era un po' più platform generale, insomma. Poi mi sembra neanche a fine di ogni livello, forse ogni tot livelli, aveva queste schermate qua, che ebbero talmente tanto successo che poi c'era un gioco tutto al contrario, praticamente. Vi do una piccola curiosità, perché sulla locandina c'è scritto che questo gioco c'ha la cassetta per Commodore 64 e 128, uno dei pochi giochi probabilmente compatibili per 128, o che magari all'altro lato c'era la versione del Commodore 128, quindi uno dei pochi giochi in assoluto per 128, insomma, quindi me lo ricordo anch'io sto gioco, sì, però non ho niente da... Allora, ragazzi, qui c'è un gioco che mi lascia un po' perplessa sta classifica, comunque lo dico, però cioè, questo è, allora, io non l'avrei, non lo so come l'avrei votato sto gioco, perché ma viene... no, è grandissimo, dai. No, aspetta, dico perché secondo me viene definito uno dei giochi più difficili della storia dei videogiochi, se non sbaglio, sì. O perlomeno uno dei più difficili della storia dei videogiochi, ed in effetti io non l'ho mai finito. Difficili e sadici, mettiamo pure assieme. È un gioco della Elite, 1986, sì. È un gioco che è uscito, penso, era un coin-up, quindi è uscito prima nelle sale e poi ovviamente nelle varie conversioni per computer, se non sbaglio, poi ditemi se sto l'anno prima, nell'85, in sala giochi. Al 33esimo posto, 8,71, come voto stiamo parlando di Ghost and Goblins. Ragazzi, questo è un gioco che era quello che dicevo anche prima, che da bambino mi ha insegnato a bestemmiare, che la versione per Commodore 64 non aveva la musica originale, ma aveva quella orchestrata da Mark Coxey, che era basato sulla sinfonia numero 20 di Chopin. Tra gli extra ci trovate la mappa nella scheda, ma non c'è il gioco. E poi mi pare la versione per 64, sempre per una questione di limiti tecnici, mi pare che aveva pure dei livelli tagliati, ne mancava qualcuno, tipo dopo la foresta mi pare che mancava la città, si arrivava subito alle caverne di ghiaccio, una cosa del genere, se ricordo bene. Guarda, sto facendo un confrontino adesso su YouTube, vedevo che la versione originale per la sala giochi ha il long play, cioè la giocata dall'inizio alla fine senza errori, che dura 21 minuti. Quella per Commodore 64 5, quasi 6. Cioè, quindi insomma, poi c'è da sapere chi è il distributore di questo gioco? Lo sapete? Vai. È Capcom, no? Capcom, sì. Comunque il Commodore 64 128 joystick required, che poi in Europa è l'Elite, esatto, mi sa, sì, in Europa non so, in America sì. Che poi mi ricordo che la versione 60 Amiga uscì molto dopo, stranamente, anzi forse me la ricordo che la giocai anche la versione Amiga dopo aver giocato sempre su Amiga Ghosts and Ghost come porting, che era il seguito, se vi ricordate. Ve lo ricorderete sicuramente come Fantasmi e Goblin, esatto. E poi, se vi ricordate, non so se era implementata sta cosa pure nella versione 64, sto gioco, appunto, perché avevo detto prima che era sadico, perché tu per finirlo cioè per vedere il finale vero e proprio, quello giusto, dovevi completarlo due volte, dove la seconda volta dovevi ammazzare il diavolo, che era il nemico finale, con un'arma particolare, che mi pare che era tipo uno scudo, che o come direbbe Matteo Montesi, udiaulu. Esatto. Se invece non ci riuscivi, dovevi praticamente ricominciare da capo. Allora, sulla locandina questa è Ghosts and Goblins Disc Pack, attenzione, dove sopra campeggia questa fantastica frase altisonante: State of the Art High Resolution Graphics. Fantastico, cioè, ragazzi, high resolution, ragazzi, come... cioè, bello. Oggi è tutto relativo. 4K, cioè, fantastico. Locandina in altissima risoluzione, quindi se siete appassionati anche per collezionare digitalmente, vi consiglio, insomma, di io questo gioco non è che non voglio commentarlo, commento perché ho detto mi ha imparato a espletare malevole imprecazioni. Siamo ancora soltanto al 32esimo posto. Siamo già distrutti. No, possiamo andare avanti tranquillamente. Allora, andiamo con 8,71 di voto. Un gioco della CP Verlag, mai sentita, 1992. Quindi anche qui siamo in una fase, insomma, caliente del Commodore 64. Un altro sparatutto orizzontale. Stiamo parlando di Enforcer Full Metal Mega Blaster. Me coglioni, cioè, il titolo come fa paura. Questo da non confondere. Nelle cassette l'avrete trovato con Spara Spara. Da non confondere invece col grandissimo Xenon Mega Blast, che quello era un altro sparatutto, solo che era, scorrimento verticale, quello anziché orizzontale come quello. Questo non me lo ricordo proprio, devo essere sincero. No, infatti, non c'è neanche la copertina. Questo è arrivato tardi. Infatti, per me, se non avete cose particolari, possiamo andare già al prossimo. Sì, infatti. Gianluca? No, guarda, però fammi dire questo, è di Manfred Trenz. Finché Trenz va bene, veramente fa paura questo qui. No, era una battutaccia. No, come? Dico, mi è trans, va bene, no. Quando è trans diventa un po' casino. Ah, no, quello è peggio. No, però comunque tecnicamente fa veramente paura. Se cercate qualche video su YouTube è assurdo, cioè proprio siamo a livelli... lo stesso programmatore di Turrican, insomma, quindi proprio... Ah, pensavo lo stesso programmatore di Giammasso spremuto altro ogni limite. Come ho fatto. Esatto, ma è veramente incredibile sto gioco. Però ecco, chiaramente nel 92 sì. Fare uno soprattutto per Commodore 64, c'era Thunder Force 4 sul Mega Drive, cominciava a essere, cominciavamo a essere un po' fuori tempi. Però ecco, dal punto di vista tecnico, beh, della brillantezza, ma io penso che se uno è appassionato di archeologia videoludica si va a vedere il link, se li va a vedere tutti questi giochi un po' per volta. Sì. A parte che c'è, mi pare pure un canale che vi consiglio, però poi lo metteremo eventualmente nella nota dell'episodio perché non mi ricordo esattamente ora il nome, però c'è un canale YouTube che è dedicato proprio a tutte le varie conversioni di ogni gioco, quindi in ogni ogni video ti fa vedere tutte le varie varianti. Ma c'è anche il famoso video 100 giochi del Commodore 64 condensati in tipo non so quanto, insomma, 5 secondi a gioco. Vabbè, ma comunque, cioè, io questo dimostra un po' la mia ignoranza, perché pure, pure al 31esimo posto possiamo anche andare. Nebulus, 1987 platform, e stiamo parlando di Nebulus, sì, che era sto fantastico gioco dove c'era la ranocchietta che doveva scalare la torre, no? Che quindi simulava proprio il giro di tutta la torre, tipo cioè, le piattaforme. Non è che tipo era Frogger che dovevi saltare, qua tipo potevi dovevi comunque raggiungere l'estremità della torre, no? Quindi dovevi tipo saltare alcune piattaforme, entrare da alcune porte che ti facevano uscire da altri lati della torre. Poi nel frattempo, in tutto questo, la torre era come se dava l'illusione come se girasse. E poi, se ricordo se venivi colpito, non è che morivi subito, ma tipo ti facevano cadere da quindi perdevi, diciamo, quota e dovevi adesso graficamente sembra niente male, insomma, tutto sommato. Sì, ma l'effetto della torre era fantastico, veramente. Io ricordo che il primo Nebulus l'ho giocato sulla Amiga, era Nebulus 2. Sì. E sulla Amiga, cioè sui 16 bit, quell'effetto mi faceva impressione. Figurati su 64. Perché là ricordo che c'era una palette cromatica, tipo sullo sfondo, con tutti i colori stile arcobaleno, che era spettacolare. Ti senti male. Sì. Vabbè, era tipo un trip su LSD, sotto LSD, Oh, vabbè, qui andrei avanti perché della Imagine del 1988 Arcade Breakout Pong, ovviamente, insomma, uno dei classici. Vedete, questo è un classico. Se c'è qualcuno che ha avuto il 64 e non ci ha giocato, non ha avuto il 64. Non lo dici, perché poi si eleva una setta segreta che voi non sapete, che esiste solo per eliminare tutti quelli che non ci hanno giocato. E stiamo parlando, ovviamente, di Arkanoid Revenge of Doom. Insomma, vabbè, questo. Bello. Era giochi da trip. Questi erano proprio i giochi da trip. Il famoso gioco che sembrava, mi ricordo almeno dalla versione Amiga, dall'intro, che fosse un gioco spaziale. In realtà era, cioè, appunto, cioè, comunque è spaziale perché comunque sci-fi, perché comunque quello che comandi è una navetta di fatto, e tu stai distruggendo gli alieni con questi blocchi, no? Però comunque ti dava l'inizio dell'illusione come se fosse uno sparatutto. No, invece no. Era semplicemente era meglio. Allora, c'è la versione Amiga, era chiaramente ancora più un trip perché c'era comunque tutta l'estetica, c'era tutte le sfumature cromatiche, gli effetti, l'introduzione, proprio l'introduzione. Dovete immaginarlo sul 64, era un trip uguale, ragazzi, cioè era bellissimo. Faccio notare sulla copertina il fatto che la Imagine era molto modesta come software house, perché aveva questo suo slogan che era the name of the game, cioè noi siamo il gioco, e l'altro sono tutti spastici. Vabbè, comunque da Commodore 64, anche questo 128, anche se comunque per sparare potevi sparare perché c'era un power up che ti faceva fare il doppio sparo con la navetta, che era il laser, uno dei miei preferiti. No, vabbè, questo giocone assolutamente anche altra esperienza, sai, che facevi, non dico in solitaria, però insomma comunque facevi magari le sfide, appunto, con i tuoi amici, ed era veramente figo. Un altro gioco invece al 29esimo posto, ovviamente stiamo entrando quasi, vediamo quasi la luce, nel vivo, 876. Io sto gioco, ma proprio il titolo non mi dice proprio niente. Revs è un gioco di corse, però tu vai a vedere chi l'ha fatto, della Firebird, 1987. No, no, il programmatore, proprio, vai a codice, vado, c'è dentro, scritto allora. Voi intanto parlatene mentre io vado dentro. Allora ti dico che questo qui è nato su BBC Micro, sì, quindi un computer inglese, perché l'autore è appunto inglese. E vabbè, lo dico io a sto punto, è Geoff Crammond, cioè quello che ha fatto su Amiga F1 GP Formula 1 Grand Prix, che quindi è un genio delle simulazioni di guida. Sì. E questo qui è praticamente il suo primo step in questo mondo. E era impressionante comunque, perché era molto realistico per i tempi. Poi chiaramente purtroppo su 64 c'ha sta grafica che è sotto gli standard della macchina, nettamente. Però appunto, essendo la conversione da un computer inferiore, c'era da pagare sto scotto. Però insomma, è primo, cioè simulazione molto molto coinvolgente, chiaramente facendo lo sforzo all'epoca di crearsi tutto il mondo immaginario intorno. Però insomma, un titolo importante. Capisco che possa essere così. Informo i possessori del 128 che anche questo c'aveva la versione, ve lo potete giocare chiaramente nella versione. Ma non ho mai capito questa cosa, cioè nel senso, perché in realtà il Commodore 128 di fatto non era compatibile con i giochi del 64. No, ma forse intendono il boot, cioè, esatto, ce lo scrivevano per sicurezza loro. O forse comunque di farlo partì come qui ne abbiamo parlato con Gianluca Santillo. Forse nella sua epoca, per me no, chiaramente, però è vero che ci ho giocato ore e ore anche io a questo. E comunque questo è stato forse il re dei giochi di calcio dell'epoca, sempre nell'arco del Commodore 64, con 8.76 di media voto. Stiamo parlando del gioco della Microprose Software del 1988, sport e calcio, ovviamente Microprose Soccer. Allora, Gianluca, andate a ripescare la puntata, perché esatto, facciamo prima, perché lì il tocco a banana, quello che il replay, il riavvolgimento del nastro, i fattori climatici, il fatto che i giocatori si stancavano, i tornei. Cioè, ragazzi, questo gioco è stato il capostipite. Giocabilità pura. Cioè, nel senso che tutto quello che è stato Sensible Soccer e Kickoff derivano da questo, quindi rendetevi conto, e secondo me ancora oggi c'ha la sua gran dignità. Ci si può divertire, perché se uno vuole veramente divertire, chiaramente, insomma, ragazzi, lo sapete, stavamo parlando del Commodore 64, sono arcade, e City, se dite qualcosa di sbagliato, però insomma è veramente un gran gioco. Io veramente ci ho pensato, peccato Gianluca che non siamo cresciuti nella stessa epoca, penso che saremmo divertiti. Hai visto, mannaggia, ma pure con Giulio, penso se un giorno eravamo tutti quanti, se ritrovavamo tutti i ragazzini così nello stesso quartiere, esatto, però esatto, con l'assurdità sta in quello, insomma. Vabbè, io insomma, ragazzi, andate a ripescare la puntata, perché quella sul calcio, a parte che c'è una delle due, c'è un intro che è veramente bellissima, ancora chiaramente chi se l'è fatto. Ho fatto io. Quindi è bellissimo. Però dico, insomma, andate a ripescare, perché ci sono degli aneddoti interessantissimi su sto gioco. E Gianluca se l'era veramente studiata proprio bene. Io quell'unica cosa che vi posso dire è che qui c'è, non c'è niente. Purtroppo non c'è niente. Ma anche qui mappa, c'è la mappa. Che cazzo c'è la mappa su Microprose Soccer? Vabbè, non so, poi dopo anche questo, ragazzi, ve lo trovate, non dico con difficoltà. Vabbè, se trova, è facile. Trova, ed è un gioco che merita, cioè nel senso che se si avete quel pizzico di curiosità archeologica, come dicevamo, insomma, merita assolutamente, soprattutto è divertente da giocare. Quindi passiamo al 27esimo posto. Un gioco che è del 1989, della Rainbow Hearts, un altro sparatutto orizzontale. Io sento Giuseppe già pronto. 8.78, stiamo parlando di X-Out. Beh, parlatene. No, sì. io la cosa bella, io la devo dire che a mia colpa non l'ho giocato questo, però sto guardando la scheda e la cosa più bella è la copertina, che praticamente è un rip-off di Predator come mostro. Sembra Predator. Sì, abbastanza. un po' se vi ricordate come quello che ci sarà, mi pare, più avanti, Turrican, che praticamente la schermata era un rip-off di un disco degli AC/DC. Non so se lo sapete questo. Attenzione, perché sulla scheda c'è c'è il manuale, ve lo potete tranquillamente scaricare. Io voi c'è chi i più giovani danno il manuale. Comunque questo è il manuale, i giochi allora c'erano bisogno del manuale. Sì. Comunque questo ovviamente l'abbiamo già detto, è uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale. Poi anche come grafica non è che mi sembra neanche 8,77 che... il voto, sbagliato, prima ho detto un altro voto. Ok. Scusate. No, è carino che una cosa iniziale di questo videogioco è che tu praticamente ti assembli l'astronave all'inizio, ti devi mettere il busto, diciamo, le armi e cose del genere, quindi c'è questa particolarità. Poi io l'ho giocato su Amiga, sinceramente, però è su Commodore 64, comunque c'ha grafica fluida, non occupa tutto lo schermo la grafica, c'è una barra un po' bruttina in basso e c'ha parallasse, no vabbè, sicuramente come spara tutto, secondo me mica ce ne sta voglia, cioè, per esempio siccome sto barando, ho guardato sempre la lista e come spara tutto non mette completamente coso. Silkworm, che secondo me era anche un fantastico, quello con la jeep e l'elicottero, certo. Su 64 era allora io andrei leggermente un po' più spedito, al 26esimo posto 8,78 è inutile arrivare là, perché tanto più o meno abbiamo parlato sempre dell'Epic Summer Games 2, insomma, l'evoluzione di quello precedente. Al 25esimo posto invece abbiamo Arma Light, giusto? Della Talamus, sempre quella là di prima, insomma, 1988, spara tutto orizzontale. Io questo anche non ammetto la mia ignoranza, quindi se avete cose da dire in merito, insomma, 8,79 il voto. Sì, no, bellissimo, spara tutto orizzontale, anche questo tecnicamente straordinario. Sì, non c'è tantissimo da dire, è uno dei migliori su Commodore 64. D'altronde poi spara tutto, ragazzi, non è che ci sta molto da dire, la maggior parte delle cose tantissimo belle sono belle tecnicamente, sono solo da giocare, cioè non è che c'è... Sì, infatti, ovviamente è difficilissimo. Ovviamente. 24esimo posto, 8,8.8, un gioco isometrico, pseudo monocromatico, alla Spectrum, questo è sicuramente importato da Spectrum. Sì. La Ocean 1987, arcade isometrico, appunto, e stiamo parlando di Head Over Heels. Sì, è un action adventure. Praticamente l'autore di questo videogioco, che era John Rittman, se non ricordo male, ora controllo, però aveva fatto già qualche tempo prima un gioco isometrico su Batman. Sì, pensate un po'. Che era molto interessante, era piaciuto moltissimo. Sì, che poi se vi ricordate tutta questa serie in realtà poi ha dato pure là anche ad altri giochi sempre sullo stesso genere, però anche mi ricordo pure sua amica tipo Cadaver, se vi ricordate pure. A voglia di Bitman Brothers. Sì, ma poi sai, l'isometrico si prestava bene a queste cose. C'erano dei puzzle, c'era anche una vena umoristica, insomma il design dei personaggi era tutto un po' stralunato. Bello, molto bello, ho degli amici estremamente appassionati di questo videogioco. Beh, no, però io per dire all'epoca era un po' piccolo per questi, un po' più articolati, insomma. Comunque 23esimo posto, 8,81. Allora, qui entriamo nella famosa categoria dei temeno con le arti marziali, che più o meno se li siamo giocati tutti, Ma non è il mio preferito questo, no, perché questo il mio preferito sta al 19esimo. Sta dove? Di sopra, sì, anche per me. Comunque della Melbourne House 1985, arcade picchiaduro, chiaramente, come abbiamo detto, arti marziali, The Way of the Exploding Fist. Sì. Che, insomma, è la via del Kung Fu che esplode. Che poi si giochi di arti marziali, quella cosa che c'erano bella era solo una cosa, gli sfondi. Che belli, insomma, gli sfondi o roba del genere. Al 22esimo posto gli abbiamo dedicato una puntata. E mi fa strano, perché secondo me non si merita una posizione del genere, perché questo è stato il gioco per certi versi. Chiaro, più difficile da comprendere, difficile proprio come gioco, anche come concezione, ma è stato il gioco che ci ha immerso nella fantasia della simulazione spaziale, per quello che potesse la simulazione spaziale sul Commodore 64, del 1985, della Firebird. Quindi abbiamo detto anche prima, il voto è 8,87, stiamo parlando di Elite, abbiamo detto appunto dedicata a un'intera puntata, quindi proprio inutile, a meno che non ci avete dei ricordi vostri personali, ma sa, con una puntata corretta c'è Alex che ha dato il meglio, un altro gioco nel 21esimo posto con 8,88 prodotto del 1988, sempre della Epix, platform multischermo. Esatto. Ragazzi, questo è un gioco che questo è il seguito di un gioco, e forse il seguito ancora di più del primo, che si sarebbe meritato comunque un episodio su archeologia videoludica, e qui noi dobbiamo dire nostra colpa, nostra mea, perché stiamo parlando di Mission Impossible, Impossible 2. L'abbiamo citato prima col fatto della sintesi vocale, insomma, e via dicendo. Questi erano due giochi veramente fichi. No, era anche abbastanza tosto, perché ricordiamolo che sto gioco aveva un limite temporale, cioè potevi morire quante volte ti pareva, anche se forse, se ricordo bene, morendo almeno nel 2 ti rubava comunque anche del tempo. Però era difficile, cioè era anche, diciamo, uno dei primi giochi tra virgolette free roaming, perché comunque spostando tra le varie torri, stanze, non c'era un ordine, potevi dei livelli, delle schermate, potevi andare dove ti pare. L'importante è che comunque riuscivi sempre, diciamo, cercando nei mobili dei vari livelli ed evitando i robot, quegli assassini, a trovare, se non sbaglio nel 2 era tipo degli spezzoni di una sinfonia da riassemblare per aprire la porta segreta e raggiungere il cattivo. L'atmosfera era quella di una spy, di uno spy fantascientifico, sì, col fatto che però diciamo con i robot, sì, col fatto che di fatto però era un platform proprio puro, nel senso che tu, il tuo protagonista, non poteva sparare ai robot, poteva saltare. L'unica cosa in più che potevi fare mentre cercavi, diciamo, all'interno dei vari oggetti, è che potevi trovare anche, diciamo, degli item che collegandoti ad alcuni terminali ti bloccavano momentaneamente, tipo il robot, se vi ricordate. Sì, assolutamente sì, sì, sì. E poi quando cascavi c'era la sintesi anche se ricordo che bene che era fatta meglio sintetizzata su Amiga. quell'urlo mi è sempre rimasto impresso. Comunque, con 8.89 entriamo nella top 20 e stiamo parlando di World Games, okay, della Epix, ragazzi, 1986, cioè inutile dire qui, cioè vuol dire, fa parte sempre della collana dei giochi multievento sportivi della Epix. Questo era carino, anche questo non era male, però insomma sì. Ce l'avevo su floppy questo, però comunque Summer Games gli dava una pista. Quindi andiamo al 19° posto, visto che suppongo che era di questo che parlava Giuseppe. Parliamo di International Karate della System 3, 1986, arcade, ovviamente picchiaduro, sempre arti marziali, sempre tizio rosso contro tizio bianco, e sempre con gli sfondi fighi. Sì, questo, ma poi anche il fatto che c'avevi le varie mosse che dovevi, poi se vi ricordo, fare cambiare tipo la posizione del kata per poter cambiare anche le mosse, o anche dove ti dovevi diciamo guardare, no? Mi sentite? La direzione verso cui eri rivolto, guardando la cosa, la copertina. E poi non ricordo se, diciamo, c'era in questo capitolo oppure era stato aggiunto in quello che vedremo più in 14ª posizione. Anche se vi ricordo che c'era pure poi quello, i minigiochi che alternavano tra i combattimenti, tipo colpire i birilli, le palline, una cosa del genere. Oddio, sai che non ricordo se era già in questo. O era nel Plus. Secondo me è nel Plus. Perché per il Plus, c'ho questo sospetto. Un punto in 14ª posizione, aggiungeva pure, se vi ricordate, il fatto che si poteva poi giocare anche in 3. No, allora, bellissimo, perché sulla copertina bastardi dentro. Allora, ricordiamo intanto che questo gioco costava 6,50 sterline. E poi ricordiamo questo qua è della System 3, cioè gli stessi tizi che hanno fatto della Stringa. All at only 6 pound and 15. Che la cosa bella è che sulla copertina, dove c'è sempre scritto attenzione version 64128, c'è Actual Spectrum Screen, cioè la grafica dello Spectrum di merda, e l'Actual C64 Screen è una grafica bellissima. Vabbè, complimenti per l'eleganza, insomma, della cosa, per la sincerità. Poi c'è pure quella dell'Atari e quella dell'Amstrad, solo per fatto vedere, insomma, che quella dello Spectrum è proprio la più brutta di tutte. Vabbè, grazie, complimenti. Sulla copertina ci sono le bandiere, ovviamente, International Karate, cioè gli Stati Uniti, il Giappone, l'Inghilterra, l'Australia, il famoso Brasile, che è famoso nel karate, e il Portogallo. Ok, sono le bandiere che io intravedo con la mia conoscenza delle bandiere di quando ero ragazzino, perché ero un fanatico delle bandiere da ragazzino. Poi sono diventato grande e mi piaceva più la gnocca, insomma, però è anche normale. Comunque quella del Brasile mi sembra un po' strana, però anche loro hanno le loro arti marziali, tutto sommato. Sì. C'hanno anche, no, più che altro il colore della bandiera. Sì, bravo, giallo, gli mancava un pezzo, sì, gli manca e così dice il rombo verde praticamente. Vabbè, comunque 18 al 17 posto, gioco, insomma, abbiamo citato prima, sì. non ci soffriamo. È seguito dal 94, il seguito della Snincia, quindi la Snincia 2, sempre la System 3, 1988, avventura isometrica. Insomma, ragazzi, questo andatevelo a pescare, perché è veramente un signor gioco. Qui adesso c'è, insomma, un gioco che graficamente sembra una cagata, no? Al 17 Arcon, dai. Ho detto graficamente sembra una cagata, ho detto. Poi graficamente è una cagata, però è un gioco profondissimo, perché come spesso capita, nel senso, capita comunque. Vabbè, Electronic Arts 1984, arcade strategia. Arcade o strategia? Allora è praticamente The Light of the Dark. Allora, di fatto sarebbe diciamo gli scacchi fantasy, nel senso che tu vedi sta scacchiera, però non è che tipo stai giocando a scacchi, ha tutto un suo regolamento di pedine che si muovono in una determinata maniera, e soprattutto perché è action, perché tu muovi un'unità alla volta selezionata contro quella del computer e le fai lottare, e i combattimenti sono arcade, non è che seguono, diciamo, le regole che sono degli scacchi, che tu, una volta che hai mangiato quel pezzo, è così ed è inappellabile, no? E ricordo bene che comunque ti potevi anche fare proprio il tuo esercito, stile un po' come, mi dispiace parlare sempre per precursori, il precursore tipo di Warhammer Fantasy Battle, no? Cioè che tu c'hai X punti e ti potevi creare, diciamo, la tua armata. Esatto, diciamo. C'è il manuale, se vuoi, c'è il manuale. Sì, è un bellissimo gioco. Se non sbaglio, ha avuto anche un seguito. Sì, lo adoro. Se non sbaglio, Arcon, sì, 2. Ne ha avuto anche uno molto recente. Ha avuto sia Arcon 2, mi pare, in tempi non troppo distanti. Poi ne fecero un remake che ho anche su Steam. Si chiama Arcon HD, forse, vediamo un po'. Sì. Arcon Classic. E però vi dico che non è nulla di straordinario. Ora, purtroppo, mi ricordo anche su 64 c'era la CPU che barava un pochetto, cioè nel senso. Sì. E su certe cose era un po' troppo sveglia. Non doveva fare così. E invece se giochi con ragazza. Non devi fare così. Invece se ti capitava di giocare con un amico, anche però un po' sgamato, perché questo gioco non era proprio, cioè dovevi dedicarti a questo gameplay, potevano uscirne partite veramente belle. Gioco un classico, secondo me, veramente. Beh, io ricordo Battle Chess, che era quello sempre con le animazioni. Sì, ma Battle Chess, appunto. Sì, però quelli erano scacchi proprio. Scacchi, okay. Questo invece quando c'avevi i combattimenti, erano proprio i combattimenti di come una specie di shoot, diciamo, shooter action, hai capito? In una mini arena, schermata fissa. Bene, allora, 16° posto, media voti 8,95, un gioco della Elson nel 1985, anche questo spara tutto. Poi mi fa ridere quando scrivono miscellanea, capito? Cioè, nel senso che te è un po' strano. Okay, e stiamo parlando di Paradroid. Gianluca. Sì, questi sono i giochi che ti tocca a te. Guarda, che fuori. Allora, guarda, questo è un altro di quei giochi che quando ero piccolino non riuscivo a capire. Però poi ho letto una recensione successivamente e praticamente è un gioco in cui tu devi fare determinate azioni per passare i livelli. Non te lo so raccontare bene perché non l'ho rigiocato, però ti posso dire che ha avuto il suo bel successo e tra l'altro è uno dei titoli più famosi di Andrew Braybrook, che poi ha fatto una buona carriera, insomma, fece Fire and Ice su Amiga e cose del genere. Quindi non te lo so raccontare bene, mi cogli un po' in privato. Ti dico una cosa, graficamente è uno schifo anche questo, però c'è lo sprite del coso rotondo lì, che ricorda il droide di coso, di Portal. Pensavo che dicessi C1 R2D2, chi è quello bianco? Il droide, quello di Portal o Portal 2, qual è quello che c'è il realtà no, ci stanno su tutte e due, quindi vabbè, sì, comunque vabbè, se siete curiosi andatevelo a guardare. Io ovviamente questo è un gioco che non conosco assolutamente, mi fa strano che sta sì, è un po' sì, al sedicesimo posto è proprio e vuole fare un po' i fighettini, cioè, nel senso guarda quante ne so io di voto, sì, un gioco che tu non conosci. Al quindicesimo posto con la media di 8,96, sempre della Epix, 1984, platform multischermo, ne abbiamo parlato prima, è il primo di Mission Impossible, quindi non sì, insomma aggiungere nient'altro, come è anche inutile aggiungere nient'altro al 14° posto, perché c'è anche qui la versione Plus di International Karate, Karate, che anche qui la grafica è sempre più bella, anzi forse questa veramente, cioè, soprattutto sta schermata che c'è qua è veramente spettacolare, perché l'uso delle palette del 64 è al massimo livello. 1987 è, come diciamo, picchiaduro arcade della System 3. E andiamo dunque al 13° posto, e questo l'ha citato prima Peppe, sempre anche qui 1990, siamo insomma nell'arco calante, uno sparatutto platform della Rainbow Art, media voto 8,87, parliamo di Turrican. Con le fantastiche musiche di Chris Eusebek, no? Che ovviamente c'ha il tema che è portante, che è anche qui la schermata fantastica. Iniziale, ragazzi, è quello che se voi guardate la schermata iniziale è un rip off di una cover di un album degli AC/DC, non sto scherzando, è davvero quella. No vabbè, ma cioè nel senso anche qui poi ricordiamolo, di fatto sto gioco era fantastico, ma era fantastico perché era praticamente il sogno di chi voleva un Metroid su Commodore 64 perché di fatto era quello che faceva la Rainbow Arts, prendeva i giochi più o meno della Nintendo e li traslava su Manfred Lorenzo, soprattutto aveva questa grande capacità di copiare, assimilare questi però sempre copiare Enzo, cioè nel senso, poi in realtà rispetto a Metroid non aveva tipo il backtracking con anche se le mappe erano enormi, inteso come il gioco di Nintendo, però per esempio aveva dei boss fantastici che non vi posso dimenticare, la mano all'inizio che ti schiacciava, se ve lo ricordate, sì, e bellissimo. Poi preso da Metroid il fatto che ti potevi trasformare in pallina e girare e lasciare bombe in giro, e poi lo sparo quello omnidirezionale, se vi ricordate. Era veramente un gioco, fantastico. Poi sfruttava benissimo il Commodore 64 tecnicamente, quindi era proprio fatto bene in tantissime cose. Forse è addirittura uno di quei pochi giochi in cui, soprattutto nel comparto sonoro, la versione Commodore 64 è persino superiore a quella Amiga. Sì, questo lo sostengono in molti, in effetti. Io ho giocato quell'anno. Io ho giocato entrambi, appunto. Sarà perché ovviamente poi come affetto sono più legato a quell'Amiga per altre questioni. Però comunque, cioè, per me platform futuristico eccetera era sinonimo di Turrican. Non c'era. Sì, ma poi tra l'altro è anche vero che questi giochi, se non ricordo male, forse anche il secondo, erano stati inizialmente pensati e studiati per il Commodore 64. Sì. Quindi sull'Amiga poi è stato fatto un adattamento strepitoso, poi però comunque è ci sta assolutamente che poi l'intenditore vada ad apprezzare più la versione originale. Bene, se mi ricordate, questo era uno di quei giochi che dicevamo prima, che richiedeva l'utilizzo della tastiera per selezionare quelle armi aggiuntive che vedete in basso nella schermata, perché altrimenti non potevate farlo. Io che l'avevo all'inizio piratato non lo sapevo che potevo usare le armi, l'ho scoperto premendo inavvertitamente i tasti della tastiera mentre giocavo, e poi vabbè, questo è successo tante volte a tantissimi giochi, spingendo tasti a caso succedevano cose che non pensavi potessero far parte del gioco, e dopo già era parte del divertimento, prendere a cazzotti la tastiera. C'era il Sega SC3000, voi forse non neanche, ma che sfiga, questo computer c'era lui e in altri 10 in Italia, cioè una sta specie di ma anche in Europa se la fotocopiavano e se la spedivano per posta. Una cosa tristissima. Quello è stato bravo perché è diventato un bravo programmatore, perché ovviamente c'erano i giochi, ce n'erano 3 o 4 insomma al massimo, e c'era l'ultimo periodo in cui c'era, una volta sono entrato in camera sua, c'era la tastiera dell'SC3000 attaccata al muro e lui che ci tirava le freccette, cioè una cosa di dare un computer come quello. Gli ho detto complimenti per la scelta. Comunque vabbè, andiamo avanti ed entriamo al voto 9 pieno. Attenzione, quindi siamo entrati solo nel vivo, perché siamo al 12° posto. Un gioco, fermi tutti che mi sono perso, a platform sempre scrolly screen, 1993, quindi anche qui siamo proprio quando oramai la stai a spremere, la macchinetta della Apex Computer Production. E era morto pure l'Amiga nel 96. Esatto. Infatti, comunque, Mayhem in Mosterland. Cioè, ragazzi, alzo le mani. Ma io, no, aspetta, ma io vi invito a prendere la scheda e a guardarvi la copertina del gioco, che sembra la versione brutta rip-off di Sonic. Praticamente, la copertina. Ma forse è voluto, forse è voluto. Sì, ma poi appunto il gioco è anche un platform. Ma sono sicuri che è un gioco, cioè sì. Ma secondo me è un gioco uscito quasi postumo, praticamente, di quelli. Sì, questo qui praticamente uscì per una. No, questo è straordinario graficamente. Perché c'ha, ora purtroppo sullo schermo del PC noi non lo notiamo, ma sul CRT veniva utilizzata una tecnica che simulava sullo schermo molti più colori di quelli che il Commodore 64 poteva forse gestire. Questa gubbettatura, cioè, questo... che vediamo. Chissà. Sì, che noi non si vede. Poi altra cosa da notare, tutto in alta risoluzione, cosiddetta alta risoluzione del Commodore 64. Quindi ed era complicatissima da fare sta cosa qui. Lo scrolling era velocissimo, quindi proprio il massimo del massimo. Ma peccato che dalle foto non si vedono i colori. Su YouTube c'è qualcuno che l'ha registrato da TV e sembra una roba effettivamente straordinaria. Comunque sono notevoli, cioè, anche soltanto così. Sì. Comunque l'uso della paletta è veramente impressionante. Si vede proprio quando la tecnica cominciava a diventare. Però la macchina va verso. Sì, ma sai la paletta che dicevi prima del 64, no? Che aveva quelle tonalità un po' spente. Sì. Nel frattempo vi ho linkato il video. Sì. Casomai, invece in questo qua spariva perché tramite questa tecnica ti veniva fuori sta roba allucinante che molto più bella, insomma. I colori si ravvivavano, il verde era un verde più brillante, assurdo. Bene. Per tutto quanto il resto era fluido. Questo è figo, sto giochetto, vedi, che poi alla fine scopri sempre cosine un po' curiose. Va bene, quindi questo ammetto proprio non ne conoscevo. Ecco, il gioco divertentissimo, che dopo un po' due palle, ma gioco divertentissimo all'11° posto, sempre con il voto di 9, quindi anche questo è un pari merito, tutto sommato. 1987 di corse, sempre della Elite, e stiamo parlando di Buggy Boy. Allora scusate, posso poco da dire se non qualche ricordo personale, insomma. No, io più che altro volevo aprire una parentesi per dire, no, davvero, sempre per rimarcare il fatto che sta classifica è fatta un po' con i piedi, perché mi metti all'11° posto Buggy Boy e non mi metti completamente in classifica Outrun, cioè veramente. Outrun, Buggy Boy però comunque Outrun, però bello, non lo ricorderai come un gioco proprio del 64, capito? Cioè lo ricorderai. No, ma ci stava, sì, non era magari pure la migliore conversione possibile, sì, magari forse Buggy Boy era più fedele all'arcade, che poi non so se avete mai giocato all'arcade. L'arcade c'aveva, come tutti gli arcade dell'epoca, il mitico volante per guidare la macchina. Che insomma era questo questo era come dicevi tu, Simone, arcade, cioè avevi i checkpoint col tempo, se non sbaglio. Sì, era a punteggi, sì. Mm-hmm. Vabbè, io invece al 10° posto sono d'accordo sì. Perché questo è un giocone, ragazzi. Mm-hmm. Questo è un giocone 9.06 di voto, un gioco dell'Electronics Art 1989, un'avventura joystick. Diciamo un action adventure. Più che action adventure, anche un precursore dei survival horror. Esatto, perché questo alcuni lo definiscono veramente come il precursore dei survival horror. Questo era un gioco che mi faceva cagare in mano. Lo dico in francese perché rende meglio. Graficamente figo, non eccezionale, ma graficamente figo. Ambientazione sci-fi. Non lo so, cioè il suo nome è hai ragione, mi ero fatto prendere dall'entusiasmo. È Project Firestar. Okay. Allora, sapete quei giochi dove tu entri nella nave perché c'è il segnale di soccorso e dentro sono tutti morti e quindi devi indagare perché sei morto e non devi morire pure te, roba di genere, sai? Dead Space. Insomma, esatto, sono la stessa cosa, mi ha pregato la battuta, originalissimo Dead Space. Ecco, raga, questo ovviamente levate il 3D, ovviamente levate i milioni di colori, è un gioco anche molto, non dico monocromatico, insomma, molto monotono, insomma, diciamo, come tipo di colorazione, ma ci sta perché fa parte anche del suo stile, della sua fotografia, di quello che ovviamente il gioco vuole trasmettere. E, se non volete parlare, io sto gioco veramente scagaliffa proprio, cioè, nel senso, io sinceramente non ci giocai perché devi recuperare, non mi capitò. Devo recuperarlo assolutamente, anche perché poi, se siete curiosi, ne abbiamo parlato nella puntata di Alone in the Dark. Bravo. Quindi magari lì si può approfondire un pochettino. Sangue dappertutto, cioè. Sì, sangue, scritte, morti, splatter. Guardate che questo splatter su Commodore 64 all'epoca, io non l'ho vissuto direttamente, ma sicuramente faceva impressione, perché è notevole. 4 sterline e 99. Insomma, addirittura forse era scontato della Electronic Arts, sempre 64 128, addirittura la software house che non è l'Electronic Arts, che fa è la Dynamics, la ricordate la Dynamics? Che poi ha iniziato a fare avventure pure, no? Che divenne la sottomarca della Sierra, se non sbaglio, addirittura, o accorpata alla Sierra. Quindi vedete quante cose la usava come publisher, vedete quante cose uno si ricorda, insomma, a fare e a dire cose. Al nono posto, ragazzi, ci sta con questo gioco, recuperatelo, ragazzi, giocateci, o perlomeno guardate qualche video su YouTube, perché è veramente notevole, e dovete poi ovviamente immedesimarvi al fatto che stavamo a parlare del 1989, insomma, con quelle che erano le nostre possibilità, e ci abbiamo un gioco di golf a un certo punto, così, tanto Access Soft 1986 Sport Golf, io bypasserei proprio riccamente, non so se... Ma è un capolavoro, però è bellissimo, sì, è straordinario. Bello, vabbè. Sì, proprio tanto. Molto, molto sintetico, però vabbè, bellissimo, no, cioè sto campo in 3D che si creava per te, che per me, cioè, ti lascerei parlare anche per ore, cioè, non so, tranquillo, è genere, volevo dire soltanto questo, mi piaceva tanto. Non vorrei essere razzista verso gli amanti del golf, ma sai, vedere un gioco come questo, per quanto bellissimo, vederlo al nono posto, Elite, sì, vederlo, ma giocavamo, aspetta che me lo vado a ripescare, perché insomma è una cosa, ma a 21esimo posto mi sembra un po' una cosa da fricchettoni, insomma, cioè, dice sempre guarda quante ce le so io, se non a pescare un gioco che tu manco sapevi come si intitolava. Vabbè, comunque dai, scusa Giallo, non volevo... No, tranquillo, non dovevo dire niente di particolare, però era semplicemente che aveva questo campo che poi abbiamo visto in tanti giochi anche successivi, che tu lanciavi la pallina e il campo veniva creato da quell'angolo di visuale, poco a poco. Ah, ma che c'aveva tipo in base alla potenza del computer? Vettoriale? Può essere? Sì, più o meno. Allora, sì, forse ho capito, forse magari me lo ricordo anche. Vabbè, comunque andiamo avanti. All'ottavo posto, 8.08 di votazione. Ovviamente anche qui non ci soffermiamo, perché abbiamo già più o meno parlato della Thalamus 1990, sparatutto platform, e parliamo di Creatures, quindi ovviamente il precedente di Creature 2. Non ci soffermiamo più di tanto, anche se una cosa la diciamo, anche per il settimo posto diciamo anche meritato, 9.11, sì. E stiamo parlando di un gioco che fu distribuito a Microsoft, sì. 1987, strategia guerra, strategia, vabbè, per quello che è, Defender of the Ground, ragazzi, perché questo gioco, chi l'ha giocato sulla... Noi ci abbiamo fatto una puntata, quindi andate a ripescare anche lì, e anche lì ne abbiamo parlato, la straordinarietà tecnica della parte grafica di questo gioco su Commodore 64 è secondo me seconda solo a quella della Amiga. Senza perché dimenticare vedere sul Commodore 64 le ombre che si muovono sullo scenario quando i due personaggi nella fase quella spadaccina, no, beh, genere, ragazzi, io mi sono messo a piangere, un attacco isterico, senza dimenticare che la versione Commodore 64, se non sbaglio, era una di quelle versioni che era meglio della versione per Amiga dal punto di vista del gameplay, perché c'aveva tipo nella catapulta le palle di fuoco che non ci stavano nella versione Amiga. Sì, vabbè, la versione Amiga, ragazzi, io finita in mezza giornata, cioè, anche qui diciamo che c'è la copertina in altissima risoluzione, io se c'è qualche peculiarità sulle, sapete, queste copertine mi divertono veramente tanto. Anche qui 64 128 detto, no, non c'è niente di particolare. Però ci ribadisco, lo scrivono due volte 6428. No, questa diciamo è una copertina di quelle più generiche, dove praticamente tu ci potevi cambiare solo quei rettangolini in basso scrivendoci, anziché come 64 Amiga, non cambiava niente, sì, praticamente. Può essere, sì, può essere, sì. Quelle diciamo generiche per tutte le versioni. Può essere, vabbè, Defender Underground, andatevi a ripescare la parte della puntata, ma soprattutto insomma andatevi a ripescare il gioco, perché sì, anche su 64 è anche un po' più divertente. Sì. 9.12. Sì, poi hanno fatto anche dei remake, quindi sì, magari si possono pescare anche quelli. Sì, no, ma in realtà sì, poi c'è stato pure su PC, c'è stata la versione quella recitata, c'è stata la versione 256 milioni di colori. Insomma, vabbè, andiamo avanti. 9.12 di votazione media, sesto posto della Rainbow Hearts 1991, Sparatutto Platform, e stiamo parlando di Turrican 2 The Final Fight, cioè Final Fight, scusate, Final Fight, sì, così, insomma. E anche qui, insomma, se volete aggiungere qualcosa rispetto al primo. Avete bellissimo anche questo, che si può dire. Mi pare che qui ci fosse, rispetto al primo, in più gli stage con da sparatutto, sì, insomma, con la navicella, sì, sì, con da inquadratura L-Retype, insomma, diciamo, ecco. Anche perché aveva fatto lo stesso autore L-Retype in passato, quindi era pratico. Diciamo. Bellissimo, bellissimo. Entriamo nella top 5. Entriamo nella top 5, sì, siamo quasi a medaglia, quindi insomma, 9.14, un gioco sempre della Firebird 1988, arcade picchiaduro, anche questo penso arti marziali, se non sbaglio. Allora, perché aspetta, stiamo parlando di Samurai Warrior The Battle of Usagi Yojimbo. Allora, aspetta, facciamo un pochettino di background. Allora, Usagi Yojimbo è praticamente questo gioco è sempre un tie-in di un fumetto americano, nonostante sembri giapponesissimo, un'ambientazione giapponese, perché segue le vicende di un Ronin, cioè un samurai senza padrone, di nome appunto Usagi Yojimbo. Con la particolarità che questo fumetto aveva tutti gli animali, cioè tutti al posto degli esseri umani aveva gli animali antropomorfi, un po' come se io facessi una storia feudale della Walt Disney, no? La cosa bella di sto gioco però è che era molto molto simile a tipo come gameplay, se l'avete giocato pure a The First Samurai e The Second Samurai, è presente? Esatto. E praticamente era l'equivalente, esatto, solo che è arrivato prima, ed era veramente bello. Sì, graficamente impressionante, perché c'è delle animazioni assurde, e poi c'è proprio questa mimica dei personaggi che sono molto espressivi, poi parlano ogni tanto con qualcuno che trovano, però ecco, sai cosa mi ricorda anche, però chiaramente qui parliamo di un altro genere un po' diverso, Karateka, cioè tu avanzi in questo scenario da sinistra verso destra, diciamo, incontrando dei nemici, e come li affronti da sinistra a destra. Sì, esatto. No, diciamo, perché c'avevi come in Karateka, diciamo che poi in ogni schermo c'avevi il combattimento con un nemico con la sua barra d'energia, no? No, ma io vorrei notare il fatto che la mia battuta fantastica incredibile, cioè, ha ucciso la conversazione. Vai, Gianluca. No, niente, volevo soltanto sottolineare quanto fosse bello tecnicamente. Attenzione, impressionante. Attenzione, perché scusa Carlo, ti interrompo dall'Olimpico, perché ne abbiamo sempre parlato nelle famose puntate del calcio. E questo è un gioco un po' particolare, perché in realtà, se non mi sbaglio, Gianluca, poi correggimi, la versione di questo gioco in generale fu una merda, in generale, però se non ricordo male, nel 64 fu un buon successo, perché era poi di fatto un'evoluzione International Soccer, e stavo parlando di Emily Hughes International Soccer, appunto. Mi sbaglio? Dico una cosa... Sì, non so cosa intendi per versione generale, perché fu riportato però anche su 64 nelle altre macchine, sulle altre piattaforme. Sì, sicuramente per 64 era stato molto più importante, anche perché era un gioco che viene giocato tutt'oggi da una community chiaramente molto piccola di appassionati, che però è super tecnico. Cioè, ma veramente tu hai il solito joystick con l'unico pulsante, puoi fare mille cose, tra cui rovesciate, colpi di tacco, passaggi molto più precisi, tatticamente i giocatori si muovono anche molto meglio nel campo. È un gioco sorprendente, secondo me il fatto che fosse il campo con la neve, Anche sì, tra l'altro. E il fatto che fosse così simile a International Soccer, mm-hmm, anche nel nome, perché si chiama Emily sì. Nukes International Soccer, l'ha un po' penalizzato, sì, perché tu lì sulla cover, per dire, vedevi la stessa cosa, cioè non notavi niente di diverso. Io vi invito a guardarvi la terza schermata in basso, dove c'è la formazione dell'Italia nell'ordine: Gamberetti, Fratelli, Rossi, Melloni, Tocci, Piatti, Martini, Pivelli, Savini, Cappelletti e Tortelloni. Bello, bello. Viva l'Italia, mandolino. Mamma, pizza mandolino mafia. Cioè, veramente mafia, no? Vabbè, ma anche quello sì, in Inghilterra comunque. No, beh, l'Inghilterra però è fantastico. Smith, Robinson, sì. Palmer, Wilson, sì, la fantasia proprio. Brown, perché giustamente c'è sì. un Brown. Palmer, vabbè, però questi sono i nostri, sono veramente ridicoli, sì. Tortelloni, attenzione ragazzi, oppure Salvini non ha solo partecipato quasi a cosa lì, non mi ricordo che cosa ha partecipato in televisione. Vabbè, comunque sì, non è che mi assomiglia, cioè sì. l'estetica del gioco, sì, quindi il campo, le proporzioni del campo, la parte sì, di sì, sì, è praticamente ripresa para para, anche gli sprite dei giocatori sì, sì, sì, sono un mod migliorato, avevano più animazioni, esatto, più sì, animazioni. Sì, sì, ma poi per il resto erano uguali. Però ecco, questo è un altro gioco di quelli che quando uscì io lo chiamavo sempre International Soccer, infatti, e lo consideravo come l'evoluzione, cioè nel senso, vedi, c'è quello nuovo, quindi non è che pensavo che in realtà fosse un altro gioco, però insomma, quindi, è un altro grande giocone che ci ha fatto godere per tantissimo tempo. Entriamo a questo punto nella medaglia di bronzo, siamo nel primo gradino del podio e siamo arrivati anche un po' tristemente alla fine, perché un po' mi dispiace, mi stavo divertendo a fare questo. Ci sono altre 50 posizioni. Scusa, possiamo andare a scorrere. Vabbè, comunque il terzo posto, chi non ha giocato a questo gioco della Firebird del 1987, platform coin up, almeno al bar, sui cellulari dove vi è capitato. Però ricordiamo che l'originale coin up è della Taito, distribuito come gioco, non è cioè, vabbè, sì, questo Firebird è diciamo per le versioni per computer, per 64, vabbè, ok, esatto. Però quello che dico è, chi non ha giocato a Bubble Bobble esatto, cioè non si deve far sentire. Adesso cancellate il file di archeologia videoludica e formattate il vostro hard disk, anche perché c'è, cioè, chi non ha giocato a sto gioco spettacolare, anche, bellissimo, sì, su Commodore 64. Anche la musichetta riprodotta fedelmente, ricordiamo. Sì. Ci fa una cover. Poi non ricordo se c'erano esattamente tutti e 100 livelli, o se ce n'erano di più o di meno, o se comunque i livelli erano esattamente gli stessi, oppure erano cambiati per la versione 64. Però comunque ricordo che era molto, molto bello. A parte che comunque di per sé Bubble Bubble è, secondo me, una delle perle miliari un po' dappertutto. Quella cosa infamante che per avere il finale migliore devi completarlo, sai, facendo tutte le cose, l'extend, e giocando in due giocatori, altrimenti non ottieni il finale migliore. Ma poi era bello perché questo tipo di gioco poteva, essendo schermata fissa, aveva qualche problema in meno ad essere convertito, quindi si riuscivano a fare grandi cose. Su Commodore 64 è bellissimo, quindi ci ho giocato tanto, bello. E poi bello, chissà se è uscito anche il terzo della trilogia pure su Commodore 64. Su 64? Me lo ricordo, su Amiga sicuramente. Sì, quello nacque su PC Engine, poi su Amiga venne portato su NES anche. Però mi sa su 64 no, sto controllando, no, su Atari ST e Game Boy, oltre a quelli che abbiamo detto. Beh, d'altronde Atari ST è l'epoca Amiga, che poi non so se vi ricordate, in Bubble Bubble c'era quella cosa inquietante che quando poi a un certo punto perdevi tempo, dopo un po' c'era la balena che ti inseguiva, che era immortale ed era micidiale. Dovevi darti da fare seriamente. Bene ragazzi, qui siamo arrivati alla medaglia d'argento, che poi in realtà fa una specie di pandam, cioè nel senso software house che si aggiudica i primi due posti, e tutto sommato mi rendo conto che per i puristi del videogioco in sé, nel senso quello classico, lo sparatutto, il platform, roba, cioè, può sembrare un po' strano, però per uno come me invece forse perché è un sito che oggi lo guardano, magari partecipano persone, ecco, magari della mia età, no? Che si ricordano quando giocavamo al Commodore 64. Però io i primi due posti, anche se in maniera invertita per quello che mi riguarda, li condivido pienamente, perché mi riportano veramente al, ecco, questi sono i due giochi che mi fanno venire la nostalgia proprio, perché soprattutto il primo, quello che invece è, qui viene considerato al secondo posto con 9,93 del 1988, avventura chiaramente, stiamo parlando, sì, di Zack McCracken. Per me questo è stato uno dei tre giochi più belli, forse di quell'epoca, insomma, quindi ecco, insieme appunto a Loom e a Monkey Island, probabilmente come avventure. Però ecco, addirittura diceva, è un'avventura grafica che finisce addirittura nei primi due posti, o addirittura due avventure grafiche che finiscono nei primi due posti, a noi oggi ci può sembrare un'assurdità, in realtà su 64 fa veramente strano, strano, però era veramente il top della tecnologia che poi diciamo su 64, sì, è uno dei pochi giochi tradotti, diciamo, ufficialmente tra virgolette in italiano, cioè di quelli non che erano tradotti in italiano perché erano copiati, ma perché questi erano proprio tradotto in italiano dal publisher, dalla Lucas. Sì, c'è stata un'intervista su Calavera, dove praticamente Caliendo intervistò, adesso non ricordo come si chiama il ragazzo, che diceva che assolutamente non esiste una versione in italiano del Commodore 64. Mi sento di, non solo a memoria ma anche visivamente guardando qua, mi sento di smentire. No, io mi ricordo che la versione Commodore 64 è tranquillamente in italiano. La mia vicina di quartiere, nonché la mia prima fiamma, il mio primo amore, ce l'aveva su Commodore 64 in italiano, versione su floppy, però era, perché era il 64 del padre, però era in italiano, non me lo posso dire. Guarda, io l'ho giocato per la prima volta su Amiga, poi ovviamente non ho fatto. Sì, pure io lo conobbi sua amica Zack, però devo dire che comunque la 64 confermo che esisteva in italiano ufficiale, era ovviamente su floppy, mi pare, distribuito, non so se è mai uscito su cassetta, ma non penso, vista la dimensione del gioco, anche perché lei comunque ce l'aveva originale, quindi ed è anche non sfigurava, certo c'erano certi dettagli che andavi perdendo, guarda che il 64 era notevole, era decente, ma diciamo alcune piccolezze era paragonabile a quella dell'amica, cioè per esempio nel negozio, quello dove andavi a comprare tutti i vari oggetti all'inizio del gioco, non c'era tipo il poster di indice, perché ovviamente sono state aggiunte proprio dopo, perché comunque allora insieme a Zack l'unico che esisteva era Labyrinth e Maniac Mansion, e poi c'è da dire che esistevano. Sua amica era molto più comodo giocarlo col mouse rispetto al joystick del Commodore 64. Però ragazzi, io Zack McCracken, che tra l'altro c'ha una faccia quasi meglio sul Commodore 64 che sull'Amiga, che c'ha quella specie di sorriso da cretino, Zack McCracken me lo ricordo soprattutto le prime fasi, quando scendi, vai dal panettiere, vai a pagare la bolletta, me lo ricordo come se fosse oggi, cioè è una cosa impressionante questo gioco, ed è stato il mio primo contatto con la Lucasfilm Games, quindi voi immaginate che importanza c'ha proprio per me, affettivamente questo gioco è veramente una delle cose intoccabili. Un giorno non arriva qualcuno e mi dice Zack McCracken fa schifo, è come se mi hai detto ho toccato il culo a sorella, la stessa cosa, cioè, nel senso, ma anche anche su Commodore 64 aveva il sistema anti pirateria dei codici, quando pigliavi il biglietto in aeroporto, mi pare di sì, forse. Questo non mi ricordo, ma probabilmente sì, penso chiaramente, quasi sicuramente sì, ma questo ovviamente per me è un legame assolutamente importante, sono voluto soffermare proprio perché poi non so Gianluca, però è così, Gianluca stava facendo la riflessione sul fatto che su 64 con i parallassi, con gli effetti speciali, con gli ultravivaci, in aperture grafiche che finiscono ai primi due posti, insomma, un po' strano, no non me l'aspettavo, quando uno va a cercare queste cose qua, guarda, mi sarei aspettato magari di vedere, mi avrebbe fatto meno impressione trovare su queste posizioni un Giana Sisters, sì, ma semplicemente perché è una cosa che tu vai a ricondurre molto facilmente al Commodore, sì, 64, non perché se lo meriti di più, eh. Probabilmente a livello tecnologico, a livello di evoluzione del videogioco, questi qui ci stanno benissimo, ma tranquilli. E qua, però ecco, la differenza è che sono due giochi che tu non accosti al Commodore 64. Se ti dico dammi 10 giochi, no, perché se sei un italiano della scena hardcore di quegli anni lo accosti al 64, perché, sì, perché poi te lo ricordi, sì, anche per il famoso Pesce d'Aprile tutto italiano uscito proprio sulla rivista per gli 8-bit Zap, che era il seguito di Zack McCracken proprio per Commodore 64, se ti ricordi, no, ovviamente mai uscito perché sì, un pesce d'aprile, però vedo, cioè, sì, nel senso che nella media non è tanto la media che Zack McCracken ha preso, che ovviamente abbiamo detto 9.23, in realtà è comunque tra i giochi più votati, questa è la cosa che mi, cioè, nel senso che proprio a memoria, per esempio, sì, la media del primo posto è superiore, ma sì, i votanti sono la metà, ha preso meno voti, sì, vedere, quindi, cioè, nel senso, poi ecco, è pure il sistema che è un po' quello che è, però ecco, secondo me Zack McCracken più del primo posto ha significato anche il passaggio a veramente a una narrativa più evoluta, perché sai, cioè, comunque il primo, che ovviamente adesso diciamo le Maniac Mansion, il primo posto è che è dell'anno prima, sì, era ancora un po' più limitato sia nei verbi che nei dialoghi, quindi, cioè, nel senso, non esistevano tante cose, perché l'interfaccia SCAM è andata evolvendo piano piano di gioco in gioco, insomma, quindi questa è probabilmente Zack McCracken è quel gioco di transizione tra la primissima era del Lucasfilm all'era, insomma, più moderna, quella più evoluta, quella appunto dei Monkey Island, dei Loom e degli Indiana Jones, quindi questo c'ha un fattore storico sicuramente importante. E andatevi a sentire la puntata di Calavera Caffè, Zack sono la mamma, che chiaramente è la puntata che abbiamo dedicato, e che quel che, indipendentemente da quello che dice Caliendo, che io capisco che lui dovrebbe essere più storico che fanservice, è comunque, secondo me, la puntata, e secondo me non soltanto secondo me ma anche dai risultati, è comunque la puntata di Calavera che è piaciuta di più, insomma, perché comunque è stata una puntata sì storica ma anche emotiva, nel senso, comunque è stato proprio il racconto del gioco, di quello che il gioco ha significato, che quello che ha rappresentato, e anche nell'evoluzione di LucasArts, insomma, che comunque rimane la software house delle avventure grafiche migliore in assoluto, perché anche se ne dica, voglio dire, la Sierra, i fan della Sierra, roba del genere. Posso dare una specie di piccolo fun fact inerente a Maniac Mansion? Sì. Come no? Allora, nella versione, siamo appunto al primo posto, appunto, sì, rimaniamo Maniac Mansion. Allora, sappiate che è rimasto comunque evidentemente molto impresso questo gioco agli americani per Commodore 64, perché nella versione, avete presente che nel seguito di Day of the Tentacle è possibile giocare al primo capitolo all'interno del gioco stesso, no? Nella versione europea di Day of Tentacle, la versione che ti fa giocare di Maniac Mansion è quella per PC, ossia quella con la grafica EGA VGA, sì, mentre invece quella americana di Day of the Tentacle ti fa giocare alla variante per Commodore 64. Quindi evidentemente agli americani deve essere più rimasto impresso questo gioco su Commodore 64. Oltretutto, questo qua, questo gioco vanta, vi ricordo, anche diciamo, è la prima e unica avventura grafica della LucasArts esistente anche su Nintendo 8-bit. Sì. NES, che però era censurata in qualcosa. Sì, non potevi fare tipo il mettere nel forno a microonde il roditore, no, la cavia, distruggerla. Vabbè, queste cose qua. Comunque, Maniac Mansion, insomma, grandissimo avventura, sì. Mansion, che per gli utenti di Rini 64.it si becca la medaglia d'oro tra i giochi. Sì. Migliori della storia del Commodore 64, ecco, io vedo veramente 10, 9, 9, 10, 10, 10, 9 e poi tanti non definiti, quindi vabbè, sono, sì, certo, non ha manco votato. No, è un po' strana sta questione, ovviamente le classifiche sono classifiche, e le classifiche si basano su come viene sviluppata la classifica a livello di regolamento. Sì. È una questione soggettiva, è una questione affettiva, è una questione anche di maggiore interesse verso un certo tipo di tipologia rispetto a un altro. Quindi, insomma, in realtà le classifiche, come abbiamo sempre detto, hanno il tempo che trovano, ed è quello che poi alla fine abbiamo vissuto noi, che in realtà conta, perché appunto se vi andate a vedere da qua dal 50 posto, dal 50esimo posto fino al 100esimo posto, insomma, ce ne sono tantissimi altri di giochi, cioè al 70, cioè Track and Field al 75esimo posto, ragazzi, cioè non siamo a ride, capito? Cioè non abbiamo raccontato, è inaccettabile. Non abbiamo raccontato niente, fondamentalmente va sicuro che non abbiamo raccontato niente, perché chi ha vissuto il Commodore 64 sa che del Commodore 64, di solo dei giochi, potremmo parlare veramente per 4-5 puntate di fila. Sì, ma poi per dire, ora mi è capitato l'occhio su Bruce Lee, che per tantissimi è un gioco fantastico, e è vero, è bellissimo. Cioè, vedo cose sotto che non ci avete capito un cazzo, cioè, diciamo così. Però, però mi sento, tutto sommato, l'unica cosa che sento di condividere è questa questione dei primi due posti, che sono due primi posti, ammetto, strani per un computer che in realtà era molto arcade, no? Per certi versi, quella la sua vocazione. Tutto sommato, in realtà tecnologicamente quei giochi esprimono molto, perché avventure elaborate come quelle su una macchina come 64, insomma, era anche un bel lavoro da inficcarci dentro i dati. Insomma, voi considerate che Commodore 64 andava a cassette o al più a floppy disk, insomma, quindi questa era una cosa che dovevamo tenere in considerazione. Non so se volete dire magari il gioco che secondo voi che vi dispiace, insomma, che non sia in questa classifica o che sia sotto, giusto così. Guarda, ti dico, per livelli, per una questione esclusivamente affettiva, ti dico Aztec Challenge, perché mi era piaciuto tanto. Noto che c'è anche Moonshadow qui sotto della Idea Software, che era molto carino all'epoca. Poi vabbè, gli altri classici che abbiamo citato, ora passo la palla a Peppe, non vorrei nominare troppi titoli. No, io vabbè, ho già citato, mi è rimasto impresso anche quando fu appunto Robocop, ho stito di qua, sì. Poi devo dire che più o meno al momento, cioè, c'è pure qualcuno tra gli altri 50 che ovviamente non abbiamo detto, e che insomma pure là mi hanno tenuto compagnia per tante giornate. Poi per il resto, insomma, non, anche perché molti di questi poi pure si andavano appunto sovrapponendo con le versioni a volte Amiga, che in qualche altro caso invece erano decisamente migliori, quindi non mi sentirei di aggiungerne altri a quelli che, insomma, abbiamo già detto. Comunque sul sito c'è anche la flop 100, quindi andare a vedere i giochi più brutti. Vabbè, magari verso la parte finale, nella prossima puntata, quando poi faremo anche il kit su Google. Aspetta, no, ce n'è uno che volevo dire, di cui tra l'altro mi dovete aiutare perché non mi ricordo il nome, però mi ricordo che era un bel gioco. Cioè, sicuramente anche noi ce lo ricordiamo. Allora, ve lo ricordate quello con quel gioco con del cavernicolo sopra la ruota di pietra, che doveva tipo saltare le buche, queste cose qua, per andare a salvare la sua amata? Non so se ve lo ricordate. Non me ignoto, ti devo dire la verità. Però adesso vagamente, no. Vabbè, team al primo posto della flop 100 è fantastico. No, vabbè, ci sono dei giochi bruttissimi, complimenti. No, non rubiamo infatti, la stupidaggine di entrarci. Allora, stop. Allora, raga, le ultime due voci, siamo già 2 ore e mezza, e quindi vuol dire per mettere ore di puntata. Uh-huh. Casomai riusciamo a inserirli nell'ultima parte di queste quattro. Ok, meglio. Quindi adesso io riprendo e ci salutiamo, insomma, nel senso. Ah, così. Ok. Perfetto. 1, 2, 3. Bene ragazzi, allora questo lavoro enciclopedico io suggerisco a tutti ancora di andarvi a cercare i video su... Madonna, ci sono delle cose bruttissime qua. Ho fatto male a Davide questa mangia, mi sto distraendo. Me lo rilinkate sulla chat, che io non la trovo. C'è anche roba veramente terribile, non dico perché vabbè, comunque c'è gente che fa cose che non deve fare. C'è. Ah, ce ne sono diverse, esatto. Poi quella è la cosa bella. Sai, quel genere andava forte. Bene. Vabbè, comunque, dicevo, cercatevi video su YouTube, andatevi a scaricare qualche ROM, io penso che non si offenderà nessuno. Fate quello che vi pare, accendetevi il vostro Commodore 64, riprendete in mano i vecchi giochi o esplorateli se per la prima volta che li esplorate, perché veramente scoprirete un mondo infinito che dal quale difficilmente riuscirete a uscirne fuori rapidamente, perlomeno. Poi insomma, dopo in questa vita, poi dopo non so, se volete fare la vostra chiosa, cioè nel senso, se volete aggiungere altro a tutto quello che abbiamo detto fino adesso, insomma, ci avete l'opportunità, ma insomma, come abbiamo detto, penso che abbiamo detto il dicibile, tutto sommato. Gianluca. Sì, io vorrei magari ripetere come il Commodore 64 abbia significato per molte persone proprio un pezzo di vita, sì, oltre che un pezzo di storia videoludica. È legato ai ricordi dell'infanzia, di tantissimi, per alcuni dell'infanzia, come nel mio caso, per altri di un tassello fondamentale di quello che è stato forse il momento più bello della storia dei videogiochi, dell'infanzia e anche dell'immaginario culturale di quel tempo, perché voi, ti ricordo che a me è sempre rimasta sta cosa impressa, non so se ve lo ricordate, il Commodore 64 apparì con tanto di ringraziamenti nei credits, appariva persino nella serie live action di Kiss Militia. Non so se ve lo ricordate, a un certo punto apparivano loro che usavano il Commodore 64. Non so se ve lo ricordate, riuscivano pure a... No, sì, c'era pure. Però là. Ha rappresentato assolutamente un pezzo della nostra storia, del nostro costume, del nostro modo di vivere, ed è assolutamente indissolubile e anche indimenticabile, tutto sommato, perché si merita veramente tutto. E cioè si merita la chiusura di archeologia videoludica, perché come fai a non considerare veramente l'importanza, detto appunto storica, insomma, di una macchina come questa, che per tanti di noi poi alla fine non è soltanto stato il fatto, le sfide, chi c'aveva lo Spectrum, la prima computer war, tutte queste stupidaggini qua, è stato proprio un modo di ci hanno dedicato canzoni, ci hanno dedicato, non dico, era un po' come la Vespa. No? Sì. Il Commodore 64, secondo me, per certi versi è l'equivalente della Vespetta in termini tecnologici, insomma. Quindi... Prima di chiudere aggiungo quest'ultimo gioco che ora mi è tornato adesso in mente, che mi piaceva pure sia su Commodore 64 ed era, se non sbaglio, anche meglio della versione Amiga, Rampage, che ci sarebbe dovuto essere pure in classifica, quello con i mostri giganti che distruggevano i palazzi. Forse l'unica cosa brutta della versione per Commodore 64 di sto gioco era che non aveva, se non sbaglio, la musica di sottofondo, quindi sentivi solo i rumori, gli effetti sonori, però per il resto era una conversione perfetta. Bene, quindi grazie al Commodore 64, grazie ai nostri ricordi, grazie di esserci, grazie stato. Tutto, soprattutto grazie Commodore, grazie di esistere. Allora mi permetto, così in chiusura di questa sezione, poi lasciamo il brano e andiamo ai saluti finali con Alex e via dicendo, insomma, così chiudiamo anche questa terza parte di questa grosso episodio che stiamo facendo sul Commodore 64. Mi permetto in primis di ringraziare Giuseppe Saso, perché anche se è entrato, insomma, diciamo nella fase storica finale, insomma, dell'archeologia videoludica, il suo supporto per questa trasmissione è stato importante, e quindi Giuseppe, grazie sempre comunque dell'impegno che hai sempre messo ti sei sempre messo in prima linea, ti sei sempre comunque messo a disposizione, dimostrando anche poi non solo la passione per il programma, ma soprattutto per il genere, per quello di cui parliamo, che è sempre stato un momento bello che noi condividiamo insieme, che condividiamo insieme e continueremo a condividere insieme magari in altre situazioni. Quindi Giuseppe, intanto grazie a te, chiaramente. grazie a voi di avermi insomma reso partecipe anche di quest'altro progetto e di insomma farmi condividere quella che è una delle nostre tante insomma passioni. Il mio unico rammarico ora che appunto stiamo chiudendo AVL è che non ci sarà mai un seguito a quella fantomatica, se ti ricordi, puntata sulle origini dei giochi di ruolo, quindi non di parlare di SSI, però vabbè, questo ovviamente per fortuna esiste un'altra trasmissione esatto, quindi a noi allora con Gianluca che dobbiamo dire che non dovevamo fare la terza parte del gioco di carte, non lo faremo mai insomma, quindi proprio a Gianluca anche va veramente il ringraziamento mio di tutta Archeologia Videoludica, di tutte le persone che hanno partecipato prima e che hanno partecipato durante, perché io ho parlato molto anche con tutti quelli che con cui abbiamo lavorato e con continuiamo a lavorare. Abbiamo considerato sempre Gianluca veramente l'acquisto importante per l'archeologia videoludica, perché c'è sempre stato anche lui, è sempre stato prezioso, sempre stato preparato, e soprattutto perché è una cosa che lui già in qualche modo faceva, è sempre stato bravo anche e molto con il ritmo giusto anche nell'esposizione, nel modo in cui ha raccontato le cose. Quindi Gianlu, io oltre a ringraziarti è stato bello il fatto che tu abbia fatto parte anche in questo modo così breve insomma di questa avventura che è durata 5 anni e che adesso giustamente per un po' poi vedremo quello che succede. No, ma ringrazio io perché è stato bellissimo. Alla fine non ho partecipato a tantissime puntate, però mi sono piaciute tantissimo. È piaciuta tantissimo l'atmosfera del team e del progetto di lavoro e tutto quanto il resto. E, ti ringrazio perché poi comunque sia sono passato da te per tutto quanto. E per il futuro vediamo. Io non mi arrendo. No, infatti non poi mi arrendo. Dopo faremo discussioni. Io chiudo prima di passare appunto all'ultima parte, vi lancio un brano perché essendo un po' l'ultima puntata, quindi l'ultima grande puntata di archeologia videoludica, vaffanculo pure alla SIAE e non ce ne frega un cazzo e quindi poi veniteci dopo a dire qualcosa, perché noi mettiamo ovviamente un brano che è un brano stupido, per carità di Dio, che è il brano appunto proprio degli Articolo 31, che però io quando lo sento mi mette l'allegria perché mi ricorda proprio che c'avevo il Commodore 64 e quanto mi sono divertito con questa macchina. Quindi ancora una volta ciao a Giuseppe e grazie, ancora una volta ciao a Gianluca e grazie, ci ascoltiamo il brano e ci vediamo all'ultima parte. Ciao. Lui non aveva super processori, soltanto 16 colori, non lo capivano i genitori, lo sconsigliavano i professori, lo attaccavi al televisore ore e ore a caricare giochi da registratore, la grafica mancava di definizione, ma la sostituiva l'immaginazione, la tua adolescenza con solo un joystick, ma nel tuo scooter andrà più veloce di quella BMX. Il Commodore 64 rompe il culo al PC. Il Commodore 64 è più un XP o SX. Col Commodore 64 là ci giocano gli dei. E il Commodore 64 si è inculato anche la Play. Fare niente con 39 KB per l'utente, invece ne hanno fatti a milioni, spara tutto avventure e simulazioni, un solo chip sonoro, ma lo potevi anche suonare, e poco prima di morire iniziava anche a parlare. Il Commodore 64 rompe il culo al PC. Il Commodore 64 è più un XP o Commodore 64 anche la Play. Il Commodore 64 Lo so, è tamarrissima, fa schifo e abbiamo violato ogni regola possibile e immaginabile a SIAE, ci andremo in carcere per questo, non ce ne frega un cazzo, però insomma io quando sento questa canzone non so perché mi esplode l'allegria, proprio perché in realtà non è neanche sto gran brano, cioè hanno fatto molto di meglio, diciamo così, però non lo so, forse perché mi ricorda il 64, quando uno dice ti, io sono 64 di, capito? Quindi è la macchina dove ci giocavano anche gli dèi, insomma, quindi non so, tu te la ricordi, no? Quindi la canzone quindi, o la macchina? No, anche la canzone, dico. Sì, vuoi, sì, sì, sì. Vuoi esprimere considerazioni su questa canzone? Ti ha fatto un po' canticchiare anche a te? No, diciamo che la prendo per quella che è, perché ho una sorta di blocco mentale nei confronti degli articolo 31, anche se non mi sono neanche antipatici, però diciamo che quel periodo della scena rap italiana mi ha un po' lasciato perplesso, allora faccio un passo indietro, mettiamo così. Ma sì, ma non c'è, io non c'ho nessuna simpatia in generale per gli articolo 31, anche non per il rap in sé, voglio dire, però sta canzone comunque non solo era appropriata, ma anche il fatto che comunque su cose così che apparentemente banali, in realtà le canzoni non ne ha fatte nessuno, invece almeno questi hanno comunque ricordato un fenomeno importante anche a livello di costume che abbiamo vissuto durante la nostra infanzia, che è stato proprio quello dei computer, di home computer, che noi siamo stati veramente la generazione dei pionieri, Alex, no? Chi più chi meno. Effettivamente sì, è inutile che lo dicano, anche se noi non siamo stati quei nerd pazzi che negli anni 70 avevano 20 o 30 anni, noi eravamo quelli che appunto negli anni 70 e inizi anni 80 ne avevano 10 di anni, per esatto. Cui quello è stato il nostro imprinting e noi siamo stati i primi nativi digitali, diciamo, anche se quando siamo nati noi i computer non c'erano, siamo stati i primi che hanno avuto un'adolescenza in cui era il nostro pane ed era solo nostro, non era dei nostri genitori, cioè, c'eravamo solo noi che ce l'avevamo, per cui sì, è stato il nostro 68, diciamo. Sì, no, hai detto una cosa interessante, perché poi in realtà probabilmente i genitori, quando io penso magari a mio padre, che era uno curioso e comprava molta tecnologia, la usava, quindi gli piaceva proprio stare in mezzo a queste cose, però per qualche motivo invece il Commodore 64, anche il VIC-20 in precedenza del Commodore 64 e i computer della sua generazione hanno creato quasi questa naturale distanza, no? Nel senso, mi interessa, però in effetti non è roba per la mia generazione, e quindi alla fine anche se sono cose costose, perché comunque erano cose costose, hanno finito per essere nostre, come dice giustamente Alex, e alla fine sono diventate nostre anche per motivi diciamo anche futili, perché poi come abbiamo elencato nei 50 giochi, poi in realtà in quel link che troverete i giochi sono 100, poi è bellissimo perché sul sito ci sono anche i 100 giochi più brutti della storia del Commodore 64, vi linkeremo anche quelli, andatevi a spolciare perché sono delle cose veramente indegne che non so, avremmo potuto fare con il kit Zen Google, però vabbè, tanto anche quello insomma fa parte del nostro ripensamento. Allora Alex, i giochi del Commodore 64, quali ti ricordi te in particolare, se quali hai messo mano magari tramite un amico o roba del genere? Fammi pensare, credo che il primo su cui ho messo mano sia stato uno di quelli di tipo il Decathlon, sai, queste cose sportive che ce l'avevano tutti, sì, era la prima, tipo una cosa del genere, non mi ricordo, perché sai, allora il titolo dei giochi era una cosa un po', sì, esatto, soprattutto all'inizio, prima di conoscere le varie riviste, uno vedeva questi, le cassette erano tutte uguali con i nomi, almeno nel mio rivenditore erano scritte col normografo i titoli dei giochi, ma erano proprio fotocopiate anche le copertine, era una cosa tristissima ed era molto difficile capire cosa era vero e cosa non era vero, e soprattutto che c'era un'idea creativa dietro, nel senso c'erano i giochi, qualcuno ce li aveva, non si sa come uno se li poteva dare. Il primo gioco su cui ho messo fisicamente le mani, vediamo un po', credo che sia stato proprio Elite, che ci ho giocato tanto. In quel periodo ero il mio vicino di casa aveva un negozio di computer, proprio il tipico negozio di computer degli anni 80, hai presente? Sì, come quelli scrausi, quelli così, e a un certo punto lui è dovuto andare via per una settimana e ha chiesto a mio padre, a me, di come si dice, di guardargli il negozio. Allora boh, per me era un po' come andare in un negozio di caramelle, per sì, dirti, esatto. Per cui andavo lì, facevo cose e provavo, e lui per poco prima di partire mi ha detto: ah, questo è il gioco più bello del mondo, sai, ed aveva tirato su Elite, e ha detto: allora devo capirlo anch'io. E allora non è che lo capì tanto, però che io sono il mio vicino di casa che ha un negozio di computer, dice che Elite è il gioco più bello del mondo, allora devo giocare. Deve essere così, assolutamente. Sì, sì. Poi effettivamente a posteriori, dopo diverso tempo, ho anche capito che era anche vero dal mio punto di vista, però al momento era così, e ci ho smadonato tanto. Credo che il gioco che mi rimane più nel cuore per vari motivi, anche se ho giocato poco, forse è proprio Zack McCracken. Beh sì, anche se io in realtà leggero passato all'Amiga, però fa un po' strano, infatti scusate, sto sistemando il microfono, scusate, e fa un po' strano in realtà il fatto che proprio su questa lista, nonostante in realtà essere un computer estremamente dedicato e come dire, non dedicato volontariamente, o forse sì, non lo so, però comunque con la vocazione per il gioco arcade, quindi diciamo lo scrolling e tutto quanto, roba del genere, in realtà proprio i primi due giochi che stanno primi in classifica in questa lista sono proprio due giochi della LucasArts, anzi allora era la Lucasfilm, che sono proprio Maniac Mansion e Zack McCracken, che è una cosa che in realtà fa strano, no, per un tipo di computer come quello, perché forse io per mia memoria ovviamente concepisco le avventure grafiche più verso l'Amiga 500 piuttosto che il Commodore 64, sebbene siano uscite anche su Commodore 64, però è proprio il fatto che, ecco, il Commodore 64 era una cosa che faceva muovere le cose veloci, che scorrevano, che esplodevano, che scoppiavano, che c'erano tanti colori, quindi fa un po' strana questo fatto che comunque gli utenti ad anni di distanza, 30 anni di distanza, invece si ricordano il computer per un'altra cosa. Io credo che queste memorie dipendano dal fatto che allora, da diverse ragioni, io ci ho pensato a questa cosa qua. Infatti, quando hai detto i primi due titoli, hai detto: sì, effettivamente è vero. Però sono anche due titoli che sono poco rappresentativi per il Commodore 64. Io penso che sia dovuto al fatto, da tanti dei fattori, e poi non so in quale ordine siano così. Uno dei tanti è che Maniac è il primo e Zack è il secondo. Esatto, no, c'è una cosa: allora non c'era internet, per cui gli utenti non dialogavano tra di loro. Cioè, l'unica forma di dialogo comune ai videogiochi erano alcune riviste, e le riviste erano veramente dei trendsetter. Cioè, immagino che se non ci fosse internet, giochi come Ico oppure Shadow of the Colossus sarebbero sarebbero ancora più ricordati, perché sono dei trendsetter, cioè sono i giochi che magari la gente non gioca, però li sentono tutti nominare, perché i recensori, che sono tra virgolette quelli più grandi, quelli che ne capiscono di più, quelli che appunto recensiscono, ne parlano bene. Per cui io credo che le avventure grafiche, che erano per un pubblico un po' più adulto, erano maggiormente apprezzate dai trendsetter, che poi l'hanno fatto diventare come delle cose che appunto la gente ricorda. E io mi ricordo più spesso delle recensioni di giochi che ho letto su Zap che i giochi stessi, perché poi magari i giochi le recensioni me le rileggevo, facevo cose, cioè era comunque un periodo in cui le cose erano ricevute, io ero ricettivo in modo differente. Altra cosa che mi viene in mente è forse che credo che queste due avventure fossero esclusivamente su floppy, giusto? Sai che non lo so, forse è bella domanda. Allora, Zack McCracken sicuramente sì, sono abbastanza sicuro. Maniac Mansion forse, e il fatto di avere un supporto diverso comunque è molto più probabile che fosse stato originale, oppure molto più probabile che fosse stato, non lo so, diciamo che il fatto di avere un supporto più nobile, mettiamola così, perché a pensarci bene le cassette erano ignobili come supporto, li ha resi un pochettino più senza tempo, diciamo, per certi versi. Però queste sono assolutamente speculazioni. No, vabbè, infatti stiamo parlando di mere opinioni, anche perché in realtà io ci ho avuto il floppy, non dico subito, ma quasi subito, almeno forse l'anno dopo aver avuto il Commodore 64, anche perché ricordiamo che comprare il floppy e il Commodore 64 significava comprare un altro Commodore 64, quasi, in quanto dentro c'era proprio c'era un altro computer dentro per gestire tutta la logica. Sì, e tutto alla quanto. Fine costava di più a Commodore costruire il floppy che costruire il Commodore, bellissimo. E infatti, ed era costoso il floppy, però da quando ho avuto il floppy comunque c'avevo tantissimi giochi su floppy, e non avevo giochi originali, quindi comunque il problema delle cassette e del floppy era praticamente il medesimo, secondo me, quindi non c'è stato mai questo tipo di problema da quel punto di vista. Secondo me è più una questione di associazione dell'età che si aveva quando si giocava, o dell'età che le persone che oggi si ricordano tendono magari a ricordare le cose che, non so, forse oggi sarebbero magari più alla portata, chi lo sa, non so. Evidentemente c'è da essere comunque un fattore di legame specifico, perché io il problema del Commodore 64 è che anche come dicevamo, abbiamo detto 100.000 volte, il fatto delle riviste, delle cassette dove abbiamo giocato centinaia e centinaia e centinaia di giochi, in realtà quanti di quei giochi realmente ti ricordi, no? A me tante volte mi vengono in mente dei flashback di alcuni sprite che si muovono nello schermo di giochi che ho giocato, però non ricorderò mai com'era il titolo, né fittizio né reale, no? Quindi quando tu hai un migliaia di cose da giocare, alla fine non dà importanza quasi a niente, se non ai giochi che veramente ti entrano dentro. Le avventure grafiche sono quelle forse più impegnative, no? Sì, anche perché storia. Poi ci passavi veramente tanto più tempo, esatto, cioè esatto. Nel senso, non era una partita, era una storia, un'avventura. Poi sai, eravamo finché eravamo giovani era tutta un'altra cosa. Sì. Bella citazione, meravigliosa. Bene, bellissima. Anche se poi io ogni tanto con lo scam VR ogni tanto una botta a Zack McCracken, no? I giochi vecchi, insomma, comunque è più una questione proprio di rivedere un ricordo che noi abbiamo, è come guardare una vecchia videocassetta di quando eri ragazzino, è uguale, la stessa cosa. In realtà non lo fai perché pensi che ti impegnerai a giocare a Zack McCracken fino alla fine, a meno che non vuoi riaccettare la sfida, ovviamente considerando che non è che te lo ricordi il gioco come te puoi ricordare il percorso di Pac-Man, no? O lo schema che facevi per cercare di completare, perché quello magari dopo una, due o tre volte ti viene in mente, invece un gioco come Zack McCracken, cioè ci devi mettere a rigiocarlo, quindi. Però è proprio è come riguardare veramente una cassetta del passato, vedere anche come erano i giochi allora, quanto erano grossi i pixel, come erano fatti i colori, come era colorata la schermata. Sai che però, scusami, su questa cosa qua io sono un po' quasi talebano, mettiamola così. Guardare un gioco con un emulatore non è come viverlo allora, per due motivi. Uno, no, l'interfaccia, certo, è diversa, ma soprattutto, certo, anche l'interfaccia visiva è diversa. Se tu pensi, questi giochi avevano una risoluzione ridicola rispetto agli standard odierni, però andavano a finire collegati col modulatore RF, cioè l'antenna, al televisore, cioè comunque era tutta una catena completamente differente dal punto di vista della qualità audiovisiva, per cui probabilmente su un televisore la cosa aveva un approccio, cioè funzionava di più rispetto a questa cosa qui. Cioè allora non esistevano gli LCD, esistevano solo i CRT, e allora forse anche lì i colori erano diversi proprio per questo motivo, perché aveva una fedeltà diversa, cioè la gente li scriveva, li disegnava per quel tipo di visualizzazione e non per quella che abbiamo oggi, per cui giocare con un emulatore è veramente porre tanti filtri. Per il vero retro gaming si fa con la macchina vera. Ma infatti, vabbè, questo sì, anche questo abbiamo già ci siamo trovati d'accordo su questo tipo di discorso, forse già in un'altra conversazione, perché in realtà tu oggi hai una cosa che magari nel passato non esisteva, ossia il poter vedere e quindi anche analizzare storicamente in termini funzionali come era una cosa, no? Quindi come funzionava, come si visualizzava più o meno, però chiaramente non puoi riprodurre il feedback se non facendo un lavoro proprio di ricostruzione, a quel punto già il discorso sarebbe diverso. Però c'era un fantastico emulatore dell'Apple II che era meraviglioso, che anche lì per provare a riprodurre il feedback, oltre alla visualizzazione della schermata dell'Apple II e di tutto quello che tu facevi, dava anche un profondo feedback estetico rispetto a quello che era il fosforo verde anche ad alta persistenza, no? Quindi c'era questa cosa qui che devo dire che è stato uno forse degli emulatori più belli che mi è capitato di vedere, e mi fece vedere a suo tempo Paganini. Adesso se dovessi ricordarmi come si chiama, anche no. Però, Stefano. No, Stefano l'emulatore. Era una battuta. Okay. Va bene, Alex. Allora, non so se c'hai qualche sfizio, qualcosa da dire, cose che ti ricordi del Commodore 64 che ti è piaciuto, insomma, e aggiungere, così andiamo anche a concludere. E poi, insomma, ci vediamo per l'ultima parte proprio io e te. Guarda, no, in realtà siete stati bravissimi e se iniziassi a parlare probabilmente finirei per fare un'altra puntata e i nostri teleascoltatori probabilmente non ne hanno la pazienza, per cui direi che rimandiamo le considerazioni finali alla prossima puntata, quella che faremo io e te sulla musica. Perfetto, allora prima di darvi i riferimenti vi diciamo che la prossima parte della puntata 6 sarà appunto dedicata alla musica, inevitabilmente insomma Commodore 64, Sid e compagnia bella e tutto il movimento anche musicale, anche dal punto di vista professionale che è nato successivamente anche tutt'oggi, quindi insomma vedete che è una cosa che ci riportiamo dietro proprio per questa grande peculiarità del Commodore 64 che ha fatto praticamente storia. Parleremo con Alex appunto di questo aspetto, poi Alex insomma costruirà il suo percorso, il suo racconto e scopriremo insieme di che cosa appunto si tratterà ovviamente la puntata. Poi nella parte finale di questa puntata ci sarà una sorta di piccola reunion molto breve con le persone che hanno fatto storia appunto in archeologia videoludica, perché abbiamo pensato tutti insieme, soprattutto io e Alex, che riteniamo giusto insomma che sia dato merito al merito e sia dato lo spazio a tutti quanti insomma di fare il saluto al proprio pubblico, sebbene come vi abbiamo detto probabilmente fra un po' di tempo ci sarà anche uno speciale su Amiga, ma quello comunque non lo possiamo contestualizzare adesso, quindi dico i riferimenti e poi salutiamo. Quindi ovviamente Archeologia Videoludica lo trovate su archeologiavideoludica.it, archeologiavideoludica@gmail.com se volete scriverci e comunque anche suggerirci cose o proporvi eventualmente per un prossimo futuro. Archeologia Videoludica la trovate come pagina su Facebook, e vi dico G+ perché tanto insomma non praticamente neanche noi ci andiamo praticamente più, quindi non ci vanno neanche in Google secondo me, no, neanche loro di Google, le mail di Google finiscono nello spam qualche volta. E poi ovviamente c'è il videoludica @videoludica appunto è il nostro Twitter e poi basta, perché non mi pare che ci sia niente. Comunque cercate Archeologia Videoludica anche su iTunes, abbonatevi, fate la vostra recensioncina, mettete le 5 positiva, stelle positiva, tante stelle, beh diciamo dite quello che vi pare, però insomma sì, se mettete 5 stelle quello insomma sono tante stelle, ancora meglio, perché mo sai segniamo pure attenzione a come si parte insomma. Va bene, Alex. Ragazzi, ciao a tutti e ci sentiamo tra poco. Tra qualche giorno, insomma, cerchiamo di non far passare troppo tempo. Detto questo, ciao a tutti e grazie. Ciao.